sistemando, ci sentiamo. Capri, ci sei? Cani. Ora. Ci siamo? Due minuti, Capri, che riprendo subito. Ho visto che la temperatura è abbassata. sì, che il sistema di cosa? Di limitatore, che oltre a un certo livello non ti faccia uscire, al contrario dei K che riescono a uscire un po' più forti. Ok, vabbè, mettiamo così anche il compressore, cioè, guardano che prendono questo bottoncino del compressore, cioè, guarda a vedere qualcosa aumentato, Roberto. Fare due prove, io non ho notato niente, dimmi col compressore e senza il compressore. Ma io qui sia compressore, questa se poi e iniziamo il tassino e tutto di più. Ok, adesso è premuto, cambia qualche cosa Roberto? Assolutamente niente. Non so se serve per le altre frequenze, quello lì non lo so. Poi c'è questo qui che deve preamplificare 14, l'altro aspetta, guarda a vedere, ora. Non mi cambia niente. Comunque non toccare niente, lascia stare così se non ci riesco. Che fai? Le regolazioni della equalizzazione le ritoccate o le lasciate come te le ho date io? Eccomi. Ciao Fla, di nuovo tanti auguri. Ciao Roberto, buongiorno a tutti, io sto rientrando adesso da Alghero, insomma adesso un pochino, ma mi stavo sistemato. Ma già va bene Roberto. Se glielo hai regolato, ottimo lavoro. L'importante è che abbia quel piano che serve a lui per modulare, nel senso che abbia un riscontro tra alti e bassi, perché lui c'ha poi un boccione enorme, quindi va bene, ottimo lavoro. Poi tieni conto che lui usa l'ICOM, quindi non è mai come il K, la spinta è inferiore. No. Va bene, ottimo. Buonasera a tutti comunque. Sì, ti stavo aspettando di lanciarsi a te. Avanti di nuovo già. Ok, perfetto. Allora qui sono sul disco perché il campo non ce l'ho, può richiedere il campo da Stefano Nicchini, meno male, per la K e così. Hai capito? Poi magari tu mi hai dato sul campo dalla anche ancora meglio. Roberto sta mangiando, già ti ho sentito. Sì, sicuramente col 440 spinge un po' di più Gianni, però l'effetto presenta c'è anche adesso, quindi vai molto bene, non ci sono problemi. Ottimo per la truppa. C'era il mondo, una cosa da paura. Allora hanno organizzato le navette e tutto quanto, dice era bello. Qua qualche concertino l'ha fatto. Vabbè, il tempo è quello che è, non è che... Però in compenso insomma si è passato un bel fine anno, senza quattroni, senza problemi. Va bene. Avanti, Ma sono la maschera, non sono la maschera, non sono la maschera. gli anni proprio passati, quando io ero un po' più, oddio ragazzo, parlo di 10 anni fa, io stavo molto di più ad Alghero, soprattutto alle manifestazioni, quindi stavo anche tutta la settimana, facevo il fine settimana lì a Fertilia, duravano molto di più, molto di più. Invece qua 5-6 passaggi, finito tutto. Evidentemente quello sto per recuperare un po' di secondo. Ciao Claudio, ciao Gianni Capidue, non so se riesci a copiarmi, ciao anche a Roberto che ho sentito. Buonasera Claudio, Bertrand, e tanti auguri, buon anno anche a te. Avanti Roberto. Scusate, me l'ho notato un attimino. E beh, cosa è successo nel frattempo, no, che mi hanno chiamato lei? Niente, ti stavo rispondendo alla tua domanda. E poi è entrato il Grod. È rientrato, vuol dire che c'era un problema all'alimentazione del, come si chiama, dell'apparato, senza corrente, poca corrente. No, la risolvamente, dai. Grazie Cla, tutto ricambiato al centro, dai, a te, a famiglia e altrettanto agli altri componenti della ruota. E, no, guarda, adesso dovresti copiarmi un attimino meglio, Robert. Sì, sicuramente, molto meglio. Però io non so se riesci a tirarmi fuori Gianni Capri 2 perché sono basso di potenza. Attenzione Capri 2. Affermativo, stai uscendo bene, dai, un Santiago di 9 qualcosa più una radio di 5 ben modulata, non c'è problema. Riprendi Roberto. Questo è un altro apparato. Scusa un attimo, ma non siamo stati di nuovo, un attimo. Ok, ora riprendo io. Beh, sistemato niente dall'altra parte, tu. Ho sistemato l'antenna. Ho sistemato la 5 ottavi con la, ma quella che mi avevi dato era un X300 o sbaglio? Sì, quello è un X300. Ho sistemato anche la X300, adesso sto facendo passare i cavi e dopodiché dovrò sistemarmi anche qualcosina qua e vedo di trovare la stessa antenna, adesso vedo se riesco a trovarla perché è ottima, vedo un attimino di sistemarla anche qua così ho la doppia stazione. Adesso sei di là, per capirci, verso l'uscita. No, negativo, via degli astronauti. Però qua il problema è che c'è il palo della 5 ottavi della Sirio che è piegato. Quindi la polarizzazione verticale si diffida adesso in orizzontale, capito? Ah, ho capito, ma avevi detto, pensavo che sì, messo tutto a posto. E io vabbè, piano piano, tu... anche io, fratti, credimi, ho dato il dottore Vannina a sistemarmelo perché pensavo fosse rotto, invece c'era praticamente un filo invertito, io non mi sono accorto, quindi intanto vieni, è pronto, io ti sistemi tutto e quando c'è tempo, finite le feste, adesso non è vogliato, piano piano, sono passato sto caso di Fabrizio a vedere cosa aveva combinato, visto che ha terminato lui e lui ha fatto tutto in fretta, io poca voglia ne ho fatto lui. No, ma sai, a parte che non ci sono le giornate, ma poi non ho proprio materialmente il tempo perché sto facendo 9:21 al Zanit e non avrei comunque tempo di farlo. C'era oggi, ma hai visto come si è messa la giornata e poi devo ancora far salire su al piano, al sesto piano il palo, che è un palo di 4 metri, quindi non passa per le scale, me lo devo far portare su dai muratori con una carrucola. Fabrizio, ho visto l'antenna, è un bel colosso, quella con la direttiva quel quadro. E niente, io per adesso mi accontento esclusivamente di una 5 ottavi, di una 300 e poi metterò il, devo agganciare solamente il coso, come si chiama, il dipolo con il balun che mi ha fatto, e diciamo che per iniziare va più che bene. Sto girando, io ho girato il mondo anche io con la filare, quindi non è che mi sono così, non sono così preoccupato da montare antenne anafrontiche nel modo più assoluto. La mia è a terra, adesso andremo a prendere il dottore domani, se ci riesco la pannina poi la piazzerò anch'io. La mia non è cubica, ma comunque i radiali verticali sono grandi quante quelle, perché sono da 4 metri e 20, quindi sono abbastanza grandi. Ha tre elementi, ma gli altri tre elementi della antenna col kit dei 40 metri. Però ti ripeto, in questi giorni non ne avevo voglia, l'ho già provata, parata tutto con Marco, va bene così, adesso appena 5 minuti non ti hanno rotto e la facciamo girare anche questa, no? Ti ripeto, io per anni ho sempre lavorato con la filare, progetto orizzontale, ho sempre lavorato bene, mi rispondono tutti. E quello è importante, quindi iniziare o finire, io se non avessi avuto questo input che tutti monta, non me ne sarebbe fregato un accidente, sarei andato a lavorare così, perché sai qual è il problema, che purtroppo devi stare anche molto attento ai venti, quando ci sono queste maestralatte matronte che stai sempre lì, dormi sveglia, ma mi lo guardi con me. Vabbè, sicuramente, ma infatti guarda che quello che mi aveva piegato il palo era proprio qua, perché per utilizzare un'antenna così devi essere in una posizione particolare, che è una posizione favorevole, però allo stesso tempo è sfavorevole nel momento in cui, o meglio, deficitaria nel momento in cui dovesse esserci vento di un certo tipo. Tu immaginati a piegarmi un palo che non era un granché, però dico, era abbastanza grossetto, evidentemente ha tirato un bel po' di vento. Cosa fai? Una volta che c'è un'antenna di una certa mole, difficile viene, anche abbassandola, a preservarsela. E tanto sempre un rischio, io quel rischio non lo posso correre nel modo più assoluto, perché se metto a correre del denaro, come quest'anno di nuovo ho fatto, andare in perdita, toccandomi, capito, andare in perdita, cioè nel senso che te ne cavi tutto e fa danno, non riuscirò mai più a poi a rimetterla in piedi, perciò ho deciso di prenderne una piccola, che poi piccola, ti ripeto, non è, perché è una 3 elementi col bundo a 4 metri e rotti, e ti tira 40, quindi va bene, fa 10, 15, 20 e 40 metri, come questo di polo tra l'altro, anche questo fa 10, 15, 20 e 40. Però questo è un dipolo ragno, si chiama praticamente direttivo e ha proiezione orizzontale, ci vuole un mare di spazio per montarlo, io ce l'avevo, come ha parlato Marco, da tanti anni e poi l'ho montato, però dico, le filari vanno bene, secondo me vanno bene, tranquilli, sereni, ti sentono tutti e non hai quella certezza e quella cosa di stare lì quando c'è vento, non è chiave, è molto pericoloso. Molto, deve essere fatto un lavoro perfetto, perché se sbagli poco, io non lo auguro a nessuno, ma bisogna stare molto attenti. Marco, che è un perfettino, che ha sempre lavorato molto attentamente, con quell'antenna lì ha voluto chiamare il vigile fuoco per staccarla, perché è un casino, capito? Tutto qua. Va bene, non monopolizziamo, comunque piazza tutto poi. Già ci sentiamo, io sono un po' assente in questi giorni di là, perché ho smontato un po' di roba e Giulio mi sta facendo l'altro pezzo e quindi mi sono un po' staccato, ma adesso già ci sentiamo. Va bene, Capri, a te il microfono, poi vai per Roberto, sei rientrato. E io sono rientrato adesso, vai Capri. Io sono un po', cioè non c'è, avrebbe sempre piaciuta la perla. Comprata non ne ho, però oggi non si può tenere, sempre mi piace un po' la perla, e avrei detto il miglior motore, il migliore, però non penso. credo che si possa tenere, vero lo penso. Un traliccio per metterla, per farla ruotare, per cui è un po' problematico. Io qualche volta l'ho utilizzata, nel stasera ho provato, c'erano questi americani, ho messo in orizzontale il segnale, non cambiava più di tanto rispetto al verticale, però non mi ascoltavano, non riuscivo a fare, erano 9:10, è arrivato questo tipo. Purtroppo non mi sentivano, non so cosa avessero loro, che tipo di propagazione avesse, fosse unilaterale o non lo so, che potesse stessero usando, io non li ascoltavo, cioè loro, io li ascoltavo e loro non sentivano a me. Beh, non credo che sia la 27 sia omologata la direttiva, nel senso che possa essere utilizzata, non credo. No, te lo dico con certezza perché ho chiesto proprio a Cagliari e mi hanno spiegato tutto il discorso della cosa, perché la legge è nuova, c'è stata la normativa nuova, non parliamo con la vecchia del 77, la prima lì proprio indicava che non si potevano addirittura usare neanche le 5 ottave, doveva usare solo un quarto onda come tipo d'antenna, le famose Grand Prime. Dopodiché è stata abrogata quella legge, non figura da nessuna parte l'articolo di legge che ti dice che non si può usare, detto da persone qualificate e competenti. Addirittura ho fatto anche la domanda, me l'ha detto anche lui, riguardo dei microfoni amplificati, ha detto assolutamente non c'è nessuna legge che ti vieta di usarli, naturalmente parlando di apparati omologati, perché dice è stato verificato, è arrivata una circolare da Roma che non cambia nessun discorso di disturbi, cioè dice puoi sbattere qualche canale, però se c'è un apparato omologato non succede niente, li puoi utilizzare, cioè non c'è un articolo di legge che ti vieta di utilizzare, mentre prima era tutto vietato. La legge parla solo di potenza, tu non devi superare i 5 watt in antenna, tu puoi avere pure un'antenna di 40 metri, la legge non te lo vieta più. Allora faccio un passo indietro, anche se hai espresso un controsenso, hai parlato con persone qualificate e poi mi hai detto che hai parlato con quelli in Cagliari. No, ho parlato con uno di Cagliari, di questi tecnici che gli sono arrivati alla circolare, infatti lui mi ha parlato proprio di una circolare, perché anche loro non lo sapevano questo fatto qua del coso. È arrivata una circolare alla Roma proprio riguardo dei microfoni, perché qualcuno diceva se ti trovano il microfono per amplificare, e lui ha detto niente, assolutamente, e poi mi ha fatto anche una battutina, ha detto ma se non vedi nessuno nella 27, che problemi ci sono di sbattere i canali? Ma poi a prescindere, prima facevano TVI, era una questione di TVI, di servizi della televisione, adesso proprio figurati, non c'è più problema di turbare nessuno, assolutamente. Non si dice così, assolutamente, evidentemente. È cambiata la legge e io non mi sono informato abbastanza. Riprendi Capri 2. Infatti quello di prima è anche era dovuto agli disturbi televisivi, perché la gente si lamentava, capite, quindi qui diciamo che ogni cosa passa la scuola degli Udine, quella dietro la strada, ma come un mostro era classe, un mostro di Avenna, e la vedevo quando andavo a Pento anche che era buon questo, in clinica. Sì, io non sapevo, ma infatti non ho, sapevo c'era qualcosa negli anni passati, ma poi non so come siano andate a finire le leggi, non mi sono più documentato, comunque, prescindere da quello, Gianni, direttive se ne fai uso, è giusto che uno ce l'abbia, ma per fare che cosa, 27 si lavora in verticale, quindi cosa da buona fa. Certo, ma detto Roberto, se la metti in verticale e ti fai un traliccio, allora sono dolori. Ma in orizzontale, la posizione orizzontale, la puoi usare in banda laterale, ma non vedo l'utilizzo, lo scopo, comunque. Ognuno può fare queste prove, vedere, insomma, eccetera, eccetera. Va bene. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, mi sono dimenticato. Va bene, tu riprendi tu, Cava, Gianni Doppio Rumo non si sentì? No, io sono andato via ieri, sono entrato oggi, non so, siamo sentiti quando? Prima, forse il giorno prima al 30 mi pare, siamo sentiti, eravamo tutti qua, la sera c'è un po' di traffico, comunque qua già ci stiamo riprendendo, io sto bazzicando un po' di più, ci stiamo riprendendo, però non l'ho sentito oggi per niente, ma io sono rientrato un'ora fa ad Alghero, quindi non lo so. Hai sentito tu, Rob? No, vabbè, attaccato, non è troppo, per un poco prima che ci fossi tu, che entrassi tu, l'ho attaccato 5 minuti, se l'ho svoltato, stavo levando questo microfono, poi non ho sentito nessuno. Allora mi dovete scusare un attimino, faccio un attimino di QRX, faccio una passa a lui e dopodiché nel caso cerco di farlo entrare e ci sentiamo fra 2 minuti esatti, dai. Cappa, perché tu vorresti mettere una direttiva? Gianni. Stavo parlando a mia moglie, ok, perfetto. E come si chiama poi anche qui, non c'è il moto, una roba del genere, no, comprare la posso comprare anche la migliore che... Però quella una serpianza nuova, io sto parlando così da livello, no, ogni tanto mi sto collegando anche a quei cosi nel computer per i quinti e sto leccando quasi tutti, ma poi... Aspetta un attimo. Andiamo, dai. Però la direttiva sarebbe bella, ma almeno a Fetla, hai capito? Sono affascinato di tutto quello che riguarda le radio. Roberta, poi c'è una forma in orizzontale montata, mi sembra, no? Certamente, in verticale dovrei metterla fissa, ma a quel punto non ne ha nessun vantaggio, perché per metterla in verticale dovresti mettere il cuscinetto reggispinta, mettere un palo, diciamo un traliccetto o qualcosa del genere, di almeno 6 metri, per cui è tutta una costruzione diversa. Dai, l'ho provata così per vedere, per certe situazioni, ma purtroppo in orizzontale raramente ho sentito qualcuno parlare, ho fatto mio, ho detto, ripeto, stasera c'era l'America, gli Stati Uniti, che di lì la propagazione si può anche trasformare da verticale in orizzontale a seconda delle riflessioni, però non ho sentito nessun miglioramento di segnale, anzi addirittura qualcosa più basso. Non significa niente sentire un segnale più basso, perché è capitato un segnale più basso rispetto a quello in verticale che ti ascoltavano, però purtroppo non c'era il collegamento. L'ho messa così, anche, diciamo così, per provarla, dai. Però non ha avuto le aspettative, non ha rispettato le aspettative mie. Dovrebbe messa in verticale e addirittura magari con qualche elemento in più, se c'è possibilità di fare qualche collegamento da lontano, magari del resto dell'Italia o della Spagna, provare così a orientarla. Infatti sto pensando a fare una cosa, metterla su un altro palo dove c'è la Mantova, messa in verticale, orientata verso la Spagna e lasciata lì. E poi mettere con l'antenna che interessa a me e che mi dovrebbe arrivare a giorni. L'unica cosa, Gianni, scusa che sono rientrato, è che costa parecchi soldi la direttiva. Non è vero, dipende da cosa devi prendere. Io quella che l'ho presa io adesso attualmente costa 81 euro scontata, su internet la fanno 230, vabbè, ma è un furto. Però secondo me uno se deve fare lavoro direttiva, 3 elementi non fai niente, ci vogliono almeno 5 elementi. Gianni, hai copiato? Io ho copiato, quella lì con un grattolello mi piace molto, un occupare di nuovo sopra, mi sarai quella al governo. Non te lo dico. Sì, ma come l'ho fatto, mio vecchio? Ogni volta che faccio la guardo, un attimo, non lo so neanche se la usa, è una direttiva che ha piazzata, mi sarai Roberto. Sì, ho due elementi, ma penso che sia anche autocostruita, però. Ma diciamo l'ha messa così per fare qualche prova, ma non è, per trasmettere non è che sia indicata più di tanto. Dai, abbiamo provato anche a connetterci uno con l'altro, ma non pensare che abbia avuto, lui vabbè tra l'altro ce l'ha fissa, non ce l'ha neanche rotativa su un palo rotativo, per cui spara solo in una direzione. Io ho provato a mettermi nella sua direzione, ma non ci vediamo, le antenne sono orientate diversamente, anche se punto verso di lui non cambia quasi niente il segnale, per cui diciamo l'ha fatta a livello sperimentale secondo me, però lì per avere un'antenna di sotto e basta, perché vantaggi e utilità non viene da assolutamente, anzi, considerando che siamo tutti in verticale, se piace la Grand Prix probabilmente arriva anche più forte. Quella va bene, però devi stare attento a come ci metti il carbone sotto, capito? Perché non le cuoce bene le zettine. Buscemi, aspettami, adesso che mi hai messo il dubbio, vediamo un po' adesso dove sono orientato, non so se è zona, allora aspetta l'antenna, adesso è, mettiamola verso muro, adesso la provo a occhio verso di te, come si chiama, Gianni, guarda come sto uscendo, adesso sono in direttiva. Segnale non ce n'ero, nulla, da zero di zero. Aspetta, ero tutto dall'altra parte, adesso dovrebbe aumentare il segnale tuo, dai. Comunque adesso è andato a 3. Piano piano si sta avvicinando, se vede che non sono neanche affondato, aspetta un attimino, togliamo qua, ha migliorato qualcosa? Siamo per a 3. Tutto a frusci, sì, vabbè. Perché sto dietro qua, non sono affondato qua. Ficcato, farebbe come abbiamo fatto le prove noi con le direttive, quando facciamo le prove a livello locale, non ha nessun significato, a parte il fatto che tra una direttiva a polarizzazione orizzontale e un'antenna verticale, il risultato scende di segnale, si è sceso qua da 69 più 20, immaginati tu, cioè, vabbè, non serve assolutamente a niente, la polarizzazione è molto importante, ma non pensare tanto che costino tanto, io tra il rotore, vabbè c'è un rotore della Iaeggio che costa più dell'antenna, un G400 RC, e l'antenna che è una Iaeggio 3 elementi più il kit dei 40, tutto 500 euro, non è che l'antenna con la 27 come quella di Roberto ce l'ha Grassi, costa mi pare 81 euro, 81 euro scontata, non è che costi così tanto, 90. Però oggi no, vabbè, molto spesso non si ha idea di cosa si va a spendere, magari si spendono delle cifre eccessive, però vabbè, io credo che questo non sia il problema di Gianni, capito? Oh, capito, che volevo pure un'attesiva per tutto, hai capito, 40 per tutte le cose, che male. 80. Sono 80 voglia di crescere. Sono molto affascinato perché mi piacciono, hai capito, queste cose, io sono come Claudio, ho capito, sempre una ogni cosa che vi radio, anche quando parlate io, non mi sento come si fa mai cose di queste cose, io sono come vale di Claudio. No, perché mi piace proprio la passione, poi a comprarla non costa niente, però il 9, a casa non ho una roba del genere, ce lo fai dopo grafico, mi fa il legge e quella compra, cioè come sono i paesi, no, giusto, no, così, riprendi grafico. Scusa, riprendo io, no, stavo dicendo che infatti avevo capito che tu volevi un'antenna un attimino più complicata e più complessa, ti facesse coprire un range di bande sicuramente superiore, e quella c'ha un costo sicuramente superiore a quello che stavano dicendo loro, capito? E per quello che quindi si va a affrontare una spesa decisamente superiore. Ma dai, lui ti dà la patente, lo prende sul punto, tra il coso, tutto messo. Dai, guarda, fatto un blues, un po' andrò. Luca. Luca. Perfetta, adesso lo fuggi, capito? Se me racconta che so che me racconto la roba, capito? Avendo la patente devo avere tutto, se no lo faccio, mi prendi per me. Tanto io la patente, già, la patente del video. Ok, quando mi prendi per me. Sono quello di computer, ti sì. Che manco, l'accendendo. Tu, Mi sei ben deciso, Luca, ma abbassi un po' il volume del mio. comunque ritornando al discorso delle direttive, Capri, ma che non fa discorsi radioamatoriali o cose del genere, per la 27 è l'unica persona che conosco che parla qua, che riusciamo a ascoltare, anzi non che parla, qualche volta lo sentiamo, è quello di Buduso e Bu, l'unico che avrebbe interesse secondo me a montare una direttiva verso Sassari, fissa e Bu, perché per tutti gli altri non serve a niente, me compreso. No, non è a direttiva, però per avere dei vantaggi, considerando dove si trova lui e qua quasi nessuno lo ascolta e quasi nessuno riesce a farsi ascoltare da lui, a parte te, Claudio e forse qualcun altro. Ci vuole una direttiva, se lui si montasse una direttiva, almeno una 320, orientata verso Sassari, calibrata bene, io sono convinto che a lui potrebbe essere utile, però in verticale, non in orizzontale, fissa su un palo e vedete le musiche cambierebbero, perché sicuramente avrebbe un guadagno superiore a quell'antenna che sta utilizzando lui, che è una omnidirezionale. Quando parla di una pompa, me ne alza la parola al capo, dopo si dice, boh, il piattaggio non arriva, ma qui, diciamo, io sono attaccato a casa, e non mi dice poi arriva quando parla, quindi, non lo so, e boh, anche un'idea, e lei non ne ha problemi a comprarsela, non glielo dire due volte, che non glielo dire, riprendi a tu. Un attimino di QRX per me, che sto finendo di fare una cosa, faccio anche la telefonata a Gianni e vedo se riesco a farla entrare, dai. Riprendi Luca, sei rimasto in ruota, sì. Diciamo che sono appassionato della luce, ogni tanto mi lavo tanto, ogni tanto. E una volta all'anno, il primo e l'ultimo dell'anno. Infatti, guarda, stavo parlando oggi, è un anno giusto giusto. Se dici, dici Giona, senti, ne dico io, tre volte mi lavo io. Dai, per il turno, vabbè, non so se ancora la parte, devo passare, lo porto a due. Senta, Bulu, ti stai comprando a tutti quanti, come li vedo, devo abbassare un po' il volume, sennò mi spacchi i timpani. Sono il volume basso della radio, per sentire a te lo devo mettere al minimo, per loro lo devo sollevare un pochettino. Comunque, già va bene, dai Luca. Forse stai filando un po' troppo, o sei un po' più vicino del solito, comunque è fortissima la radio. Avanti, Claudio, riprendi tu. Sì, Corcelle, va bene, dai. Signori, io mi allontano, però sono stanco molto, ho bisogno di sdraiarmi un pochino. Vi ascolto volentieri, se non chiamato ci sentiamo più tardi se coincide, se no fatevi un buon fine serata a tutti. Ok, Capri, riprendi e a più tardi. Ciao, ciao. Ciao, Claudio, buon tutto e quando noi siamo qui, io la sto acceso, hai capito, ormai... Mi sto facendo l'intermediario di vacanze, mi faccio qui vacanze, allora sempre ancora devo mettermi a foto cose, e ce le ho fatte, infatti roba. Vabbè, adesso ti devo dire una cosa, io l'altra sera ero nel Bosito, la televisione non c'era nulla, e mi ho pensato guardando che il computer, siccome lì c'è una bomba, con questa roba di SM che seguo con quelle antenne, però... Perché non si guarda qualche film, non so come fare, io ho detto, io voglio vedere il film di Asma, che sorpassano, però ha programmato questa roba, io devo guardare il film, lo sai, non c'è, c'è quella macchina, c'è quell'autoradio, c'è anche il valvole, come quello che ha da te, come se un attimo lo dobbiamo vedere, guarda se mi sorpasso e guarda l'autoradio che c'è la macchina dentro. Sì, sicuramente di quel periodo lì degli anni 60, no no, è bella, veramente bella, poi è pesante, cioè quella radio lì pesa almeno 8 kg secondo me, 7-8 kg dai. No, non l'ho accesa, lo sai, perché prima di tutto voglio provarla bene con un alimentatore separato. Inizio piano piano, con le valvole è meglio non andarci cauto, con tensione più bassa, l'alimento a bassa tensione un po' più bassa, in modo da non sollecitare troppo le valvole. Dopodiché ci vuole il carico degli altoparlanti. Diciamo in questo momento non ho altoparlanti volanti, dovrei usare delle casse automo piccoline di casa, non ho avuto tempo, però mi sono promesso di provarla per sentire il vecchio suono di un'autoradio a valvole. Io se me l'avessi detto che ne avevo 4 o 3 ne avrei gli altri altoparlanti, perché c'erano quelli della Volvo che gli ho reclati, c'è anche uno che sta lavorando all'interno, però in Italia c'è anche 2 altoparlanti che li ho volanti. Voi, capito, guarda che quel qualizzatore, Robè, non è un problema, io quando l'ho pensato qui quell'autoradio, cioè quando me l'ha data a me, Robè, tipo, questo Stefano, sento come magari che scassava nel freddo, ma vedete che aveva la corpo, la prima, no? E l'ha comprato, dopo di vecchia, era immacolata la macchina. E allora ce n'erano, non erano pochi, dico. E poi è passata a me la macchina, e non ce n'era, non è che porre il cimetto. Ho preso che l'ha complicato l'altro autobus, e dico che andava bene quella macchina lì, per quegli anni buio, non so, ma se ne avevo il battolare, e avevo messo in garage, però tutte e due funzionano, se ne puoi stare certo. Sì, non è dubito già. Adesso. No, dopo parlare di quelli dei volanti già ce ne ho qualcuno pure io, però non voglio mettere con delle cassettine piccoline, ma fare una prova decente, dai, ascoltando al meglio delle prestazioni, perché ho tirato parlanti in cassa aperta così ti danno solo in scatoletta. Voglio rivalutarlo ascoltandolo, diciamo, a casa, ho delle cassettine di un impiantino surround di quelli on Fiat, ci metto due di quelle casserie e vediamo un po'. Tra l'altro mi sembra che sia anche mono con la radio, per cui non c'è neanche problema di attaccarne due, ne puoi attaccare anche uno soltanto, dato parlare. Ma scusate, io ho un microfono gelato dalla Sony, quella karaoke, no? Insomma, lei mi sia... Cioè, lei ho pagato tanto, ho pagato 25 euro, mi sa, una cosa del genere. Farlo uscire più forte, si può fare qualcosa? Ma quelli sono a condensatore, con la batteria sono quelli di lui. No, a filo sono, a filo senza batteria. È più forte, direi, questione di impedenza, devi rispettare l'impedenza dove l'attacchi, perché i microfoni, quelli normalmente si attaccano al mixer e poi glielo regoli tu l'ingresso, glielo regoli tu il guadagno. Ma io ho una scheda audio del computer, la Creative, che è buona, c'è un effetto, solo che il microfono esce, cioè non è cupo, però è un po' chiuso come, diciamo, come radio, come modulazione, come la vuoi chiamare. Non lo esce chiara, potente. Si poteva fare qualcosa, Vabbè, c'è da dire che quelle schede audio sono fatte per altre cose, cioè l'ingresso microfonico del computer è ridicolo, cioè confrontato con un'entrata all'altra frequenza non c'ha niente a che vedere, è a livello di citofono come coso, come risposta in frequenza, per cui non è che conti più di tanto il microfono, perché ti faccio vedere, usando microfoni professionali attaccati al computer suonano peggio di altri microfoni di quelli cinesi da 3 euro. L'ho già provato io, ho fatto delle prove, io ho un microfono di un certo livello della Shure, confrontato con un microfono di quelli Monarch, quelli fatti in Cina, se tu lo senti attaccato al coso, al karaoke, sono due cose diverse, utilizzando il computer, se lo utilizzi con strumenti musicali, diciamo, con l'amplificazione di un certo livello, è tutto il contrario. Infatti credo ci mancherebbe. Stavo pensando, la cassa è rotonda, capito? È rotonda. Ed è tipo quella... Ma tipo, forse magari, ma non penso che vada bene quella. Di un MC60, no? Vabbè, quella MC60 è una capsula ceramica, un altro tipo di discorso, quelle lì sono roba economica, Lu. Per cui bisogna fare delle prove, perché direi è l'impedenza d'ingresso che conta, perché devi arrivare a quella tensione lì d'ingresso, devi accettare almeno non so quanti millivolt c'ha d'ingresso il coso, il computer. Normalmente gli impianti hi-fi devono avere 200 millivolt d'ingresso. Questi computer non so quanto è il minimo che possono accettare, devono fare delle prove, magari se c'è uno che ha un'impedenza un pochettino più alta e riesce a darti un po' pochettino di più, devono fare delle prove lui. Perché molte volte quelli della, come si chiama? Quei microfonini, quelli che ti metti con la cuffietta, come si chiama, quelli che hanno le cuffiette attaccate, quelli lì magari spingono di più di questi da coso, da studio, chiamiamo. Gli auricolari? Come Lu? Gli auricolari? Provare anche con l'auricolare, molte volte hanno un rendimento superiore a quelli lì, bisogna fare delle prove, come le cuffiettine piccoline hanno una sensibilità molto superiore, ma a quelle grosse, con i padiglioni grossi, l'efficienza è superiore, ma il suono può essere inferiore perché quelle grosse a padiglioni i toni acuti, cioè i toni bassi li senti molto di più perché sono più larghe, mentre le piccoline, diciamo, il diffusore, diciamo, quello che dà la musica è più piccolino, per cui le oscillazioni non riescono ad arrivare a quelle frequenze così basse. Oh, vabbè, allora forse non mi sono spiegato. Io ho questo microfono, ho detto, se poi si poteva modificare, solo che da Giovanni lui magari mi dà un aiutino, non so, forse mettere qualcosa, farlo uscire più, diciamo, non dico più forte, il coso va bene, come potente, va benissimo, perché la serata me lo permette, in più con effetto ecco, solo che rimane leggermente cupa, siccome mi autoascolto, no? Vabbè, e rimane un po' cupa, vorrei portare una mano leggermente più chiara. La potenza, come cosa va benissimo, come potenza, va bene, anche troppo forte, guarda. Portare un po', insomma, modificare la, essere un po' più chiara, ecco. Allora, ti spiego Luca, i microfoni ne esistono male, sistemi di lavoro ne sono tantissimi. Tu devi capire cosa devi fare, se quel microfono lo devi usare per la voce, ti prendi un microfono specifico per la voce che abbia quella risposta a frequenza tagliata sulla banda della voce umana. Invece devi utilizzarlo per amplificazione, per dire gli strumenti musicali, di chitarre, dove lavorano ad altre frequenze. Ci sono quel tipo di microfono che è più adatto per quella frequenza. Normalmente sono quelli che stai dicendo tu, quelli di uso commerciale, cioè hanno una risposta a frequenza molto ampia che ti permette di fare tutto, però magari non è neutro come un microfono specifico per la voce, devi fare delle prove con altri microfoni, è inutile metterti a modificare quello lì, la risposta in frequenza di quello, teoricamente si può fare, tutto si può fare, però a quel punto ragazzi dove arriva, trovi un microfono, se non ti piace quella tonalità, per dire se hai troppi acuti o troppo bassi, esaltati, ti trovi un microfono specifico, magari facciano delle prove e vedi che magari ti va molto meglio dell'altro, è solo quello di discorso. Ci sono microfoni da studio per voce, per strumenti, per pianoforte, per violino, e sono tagliati come un baracchino, cioè come una palata HF. Se vuoi andare nelle 80 metri devi avere quella frequenza lì, per andare nelle VHF devi avere un'altra frequenza, e così è la stessa cosa, la risposta a frequenza di questi microfoni qua. Normalmente quelli sono universali, che ti permettono di prendere un arco di frequenze, per dire dai 20.000, dai 20 ai 20.000, diciamo, tutto l'udito, la fascia udibile dell'uomo, dell'orecchio umano, quando è sano naturalmente, però la voce non trasmette mai a 20 Hz, ha frequenze molto ma molto superiori, per cui uno dice quando io costruisco un microfono utilizzabile solo per la voce riduco lo spazio e lavoro anche meglio, come un altoparlante indicato per le frequenze, se c'è una cassa con un unico altoparlante ti fa tutte le frequenze, c'è un suono, se ti metti una cassa a tre vie, uno per gli acuti, uno per i medi, uno per i bassi, lavora diversamente e c'è una resa migliore, idem per i microfoni. E capo, ma pure dai, inizio qua, riprendi Gianni, tu, e mi assento un po'. Direttivi, super direttivi, ipercardoidi, ce ne sono cardoidi, ci sono una marea di microfoni che neanche abbiamo idea, ci sono a condensatore, a coso, a carbone, a coso dinamici, guarda c'è una cosa di microfoni, una varietà, dipende tutto da cosa devi fare, tu hai nominato delle grosse marche, Sennheiser, HPG, io ho gli Shure e gli HPG come microfoni, sono eccezionali, naturalmente stiamo parlando di cose un po' più particolari, poi il mercato ti dà di tutto. Anche lì poi ci sono microfoni da 10 euro, puoi arrivare a migliaia di euro, dipende da cosa devi fare. Microfoni da studio, quelli con la piantana, non so se li conosci, vabbè, penso di sì, quelli non i classici luce a tubo, come li conosciamo noi tutti, quelli frontali che hanno, che parli frontalmente, che vengono retti con una specie di cravatta da sotto, non so se l'hai visti, con delle lamelle, diciamo sono tutti, dice bene, quando devi fare voce ti utilizzi quei microfoni, se invece devi utilizzarlo per uno strumento ti metti un microfono direttivo tagliato su quelle frequenze lì e lavora diversamente, dipende da cosa devi fare. Sicuramente un microfono per fisarmonica è diverso da uno per voce. A proposito di strumenti, domenica, ieri cos'era? Lunedì? Domenica c'era Piazza d'Italia, c'era il mercatino del coso, dell'antiquariato, c'era un po' di tutto e c'erano, questo tipo stava vendendo tre di quei organetti, tipo, infatti ho pensato a tuo figlio, ho detto, mi questo chissà se li vede il figlio di coso, di Gianni, di questi organetti vecchia generazione fisarmonica. Era. E noi diciamo che abbiamo quegli attanti, mio figlio di capito tra ovviamente ne ho comprato uno nuovo, però quegli armoni che ne abbiamo in garage di mio 4 più calesture a caratore, quello dove c'è una io ho organizzato, ne ho comprato uno nuovo, sono trasformato sempre, quando ho imparato bene poi glielo faccio costruire apposta dalla casa mia. Siamo tanti, ho due risposte, anche la come si chiama usa molto, la Panasonic, la Panasonic la usa, hai capito, in un altro tipo di fisarmonica, perché con gli altri microfoni non si adatta, e ne, proprio il piano di nuovo è molto pignolo, mi lo vede, nel suo mio figlio è molto pignolo, oggi, da sempre, se ne non va bene, 10.000 volte siamo in fabbrica, finché anche quando la manda a cortare, sale lui, piglia l'aereo, piglia la persiglia, sale come si piglia il fumo, lui in continente, e sta lì la cordatore che l'ha chiamato, signor Giale, questo quando se ne va tuo figlio, perché non le va mai bene nulla, quando l'hanno costruita la rossa, la morte, se la fatta fare su misura, amico qui. Ha detto 5-6 volte la tastiera ci ha fatto le fare, anche il tocco le guarda lo per buttare vista come si chiama di quanto abbassano i tanti, sicura l'impronta nel proprio vero, anche quello le guarda. Certamente gli strumentisti di un certo livello guardano tutto, noi magari non neanche ce ne accorgiamo tra una cosa e l'altra, loro sentono il rumore da fermo, diciamo, senza accenderlo, danno due colpettini, è come quando uno è appassionato di coso, di violini e cose del genere, senza neanche suonarlo, toccano il materiale e si rendono conto di che parte è fatta la cassa acustica, per cui stiamo parlando di gente di professionisti, da non mettermi in dubbio che quelle cose lì vengono, come si chiama, controllate. Io direi un attimino di bianco, vediamo se è entrato qualcuno sul canale 10, in compagnia di Roberto in questo momento, e Gianni dall'altra parte, vediamo chi c'è che vuole entrare. Io non sento nessuno, c'era Claudio che era stanco, si è andato un po' a riposare, c'era Antonio Grobbe, che non so se c'è ancora, Antonio se ci sei batti un colpo. E poi ho conosciuto questo tipo, te l'ho detto Gianni? No, parlando di roba d'epoca e cosa del genere, non questa volta, tempo fa, mi sono trovato sempre uno di questi mercatini, stavamo apprezzando delle cose, cioè mi sembra una moto, una cosa del genere, e è uscito lui e ce l'avevo anche io, di lì è venuto il discorso, ci siamo parlati e lui ci aveva degli interessi simili di auto e moto d'epoca, mi ha parlato di vecchie moto, di macchine, eccetera, eccetera, ci siamo dati appuntamenti ed è venuto in officina a me. Questo è un grande appassionato di biciclette, adesso sta costruendo a Perfugas un museo, infatti gli ho fatto vedere qualcosa io, era innamorato di qualcuna che c'aveva mio fratello, lui dice sta prendendo di tutto, ne ha qualche centinaio di biciclette e vuol fare diciamo a buon punto questo museo della bicicletta e dei mezzi di locomozione, dice poi ci mette qualche motorino, qualche macchina, qualche ciclomotore, qualche motociclo, in modo che dia una panoramica di tutto, però soprattutto biciclette, poi tutta la storia, cartoline, manifesti, roba di inerente alla bicicletta. L'altro giorno stavamo parlando, insomma lui ha visto questa di mio fratello, noi ne abbiamo qualcuna bicicletta d'epoca. E da lì mio fratello gli ha detto, guarda, se mi buschi una motoretta, gli ha detto, beh, e gli ha fatto adesso una proposta, lui c'ha una Lambretta di quelle vecchie degli anni 60, due sillini, mi ha fatto avere fotografie e un router, e poi c'ha un po' di materiale, cose del genere, e vediamo un pochettino cosa si può fare. Bicicletta non ne avete voi da dare già. Bicicletta ne ho una da corsa che le ha regalato a mio cognato, non sai cosa si può dire, ho dato via il Ducati, me l'ha dato solo il Ducati, non va toccati il sono che 380, la Sofia così, con le lezioni Cassari, e 350 il marchio alla Sofia il Ducati, e il Suzuki 380 con la relativa attrezzatura specifica della Ducati, tutti i cambi che c'erano, non si percorrono per nuotare il garage perché non si poteva per entrare. Cacchio, non ti chiedo quanto l'hai dato, lo scrum l'hai dato. No, il Marti 3, meglio, invece come sono amici. Ho detto, io mi devo tutti i garanti, ho detto dammi 500 euro, io tutti i cambi, si possono fare 4-5 motori, i Ducati, i pistoni, tutto l'attrezzatura speciale, strumenti per dare i carburatori, e a quel prezzo sono portato via anche solo di derotarla per fare tutto in garage perché non ci viaggio più lo penso, sei garanti. Allora, Salvatore è una grandissima persona, hai fatto bene, l'unica persona, no, se no te l'avrei trovato 10.000 di clienti che l'avrebbero preso, ma non a quelle cifre, molto ma molto di più. Con Salvatore sei in una botte di una persona preparata, molto appassionata ed è una persona seria soprattutto. Dai. Niente da dire, lui ce l'ha già, uno scramble mi sembra. Salvatore c'ha tutti, poi c'ha anche un 750 Ducati bicilindri con la roba di nuova, potrebbe fare anche un altro motore, il motore del Marchi 3 che tira lo scambio proprio, e come si chiama? Roserie Sport, hai capito? Era molto buona, anche c'è un film l'ha usata quella motore. Niente, però la moto era assente di documenti, lo vedo che poi quelli li avevo versati all'epoca, rimasto la mamma quando non viaggiavo più, capito? Era, e poi c'è un pittore costante nuovo di vecchia, però quello sempre rimane immatricolato perché è l'uomo versante, nuovo. Poi fa posta che il mio nuovo mi ha lasciato le inerenità, appunto mi ha detto, l'uomo versavo. Avete visto che era una che ha fatto questa all'epoca e quindi dopo ti ha lasciato adesso la Suzuki che l'ha portato a che ho lasciato via le moto, infatti ti ho detto a Salvatore vai da qui dove stavo e c'è un'altra che me l'hanno regalata a me e te la porti via. Salvatore è una persona molto in gamba, io glielo ho detto sempre con lì perché me le volevo tenere o per fare però ho detto poi non ci piaccio più e niente. Hai capito, tutta la trattatura gli ho dato speciale, tutti i cambi, i garage piccolo, lo sto facendo a posto, pulendo, poi mi è rimasto il Ducati 98, mi è rimasto poi la Vespa 50, che era di nonno, con le serre e il Maraguti, dicendo quello che lascio. Quindi era anche la trattatura specifica. Non sono tutti che la sanno fare quella moto, lo sai chi era bravo? Che ha lavorato a Coso, a Nuoro, quello di Nuoro era lo specialista che poi ha insegnato a Mariani qua a Sassari, Coso, Fodda. Quello lì, Mariani lo dovevo, non sai cosa ha fatto Mariani all'epoca, ha smontato per cambiare la mola della Michimoto, il 98, il Ducati, non c'è scoglio da farlo a mille pezzi il motore, perché c'era il bagnolo, vedo, cambio, cioè l'ha fatto tutta l'Olini. E a papà morirà la moto, non era mai sotto, non ci riusciva a chiuderla. E una sera stavano discutendo, si ferma questo camion e questo tipo, ed è sicuramente era questo qui, perché mi ha detto quel tipo, la Maria mi ha detto la pizza al numero. Beh, e cosa c'è? Così così, ha detto dammi il giornale, dammi un pennello e un come si chiama con benzina. È iniziato, adesso dopo si è messo a fare in meno di mezz'ora, adesso ha chiuso il motore, l'hanno montato sotto al primo colpo, a partire da proprio questo tipo qui che mi ricordo. E lui che ha insegnato a Mariani a chiudere, quei motori lì sono particolari. Il 98, ma cos'è? Che modello è di Ducati 98? Spiegami un po'. CS, 98 CS, rossa, con l'operaio colorato. Tipo il cucciolo è? No. Che epoca è? Adesso non ce l'ho presente. Ducati 98, così è. Ma 4 tempi o 2 tempi? 4 tempi, a quel computer ce l'hai lì. Sì, che ce l'ha fede, lo cerco. Si chiama Ducati 98? Niente, non Ducati 98 niente. Quando si appare quella che ho io, presidente elettrica, Ducati 98 niente. Ma l'ho messo nel motore di ricerca, c'è da vedere. L'ho aperto su coso. bellina, è carina. Ma ne fai con la moto, te la tieni? Col dettaglio dorato, questa è rossa, che c'è una specie di serbatoio rosso con un affare bianco disegnato, dai, tipo una fiamma, ti ricorda una fiamma così. Come si chiama il sedile rosso con una banda bianca? Proprio così, ammortizzatori rossi, braccetti, l'ammortizzatore, e non sono l'ammortizzatore, il volante tipo corsa piegato un pochettino verso terra, così è corto, un manubrietto, diciamo una moto sportiva, tipo il mondialino che c'ho io, è bella comunque. No, poi non avevo quella manco lo prezzo, quella deve essere cassa e non guardo manco se uno mi dà una Ferrari, hai capito? Mi ha lasciato solo i ricambi di quella moto, tutto di bombazzi, valvole, hai capito? Non la do manco quella, è la mia vita quella moto, vero? Naturalmente le cose affettive non hanno prezzo. Ce n'è un'altra, ma no, sono su YouTube, ce ne sono, c'è questo qua. È piccoletta come moto, mi ha detto la fanno mettere nel moto, sembrava più grande, ma è bassina come moto. Non è molto alta, non è molto alta. Però quando ero piccolo ci andavo sopra, mi sembrava, mi sa che costa a me, e ero sorella, ma per questa volta avevi 3 anni adesso quando andavi a giocarci sopra, mi sembrava. No, ma cammina, l'ho tirato, quasi a 90 all'ora tocca. E all'epoca era tanto meno 90 all'ora per una moto di quella cena. No, no, è carina, è bellina. Diciamo, è proprio la classica moto anni 60. Io ne ho una in officina che me l'hanno lasciata, me l'hanno tenere un mese, ma dai, un mese tieni, ma ti pare che l'ho fatto avere quel Corsaro, il Molino Corsaro, credo che sia 125. L'avevo visto già, l'ho di mia moglie a Bologna, ma me ne voleva regalare una di quelle, una ne ho usa, poi non avevo posto, e gli ha date, hai capito, una ne ho usa, me voleva regalare 150, e quella cosa l'ho precisa, poi gliela date via. E il vestino che modello è? Il vestino è del 66, quello con lo rotondo, vero? Lo rotondo, quello in origine è nato sella unica, quella piccolina triangolare, senza la sella normale, diciamo, come le soli. No, guarda, c'è la sella lunga c'è la mia roba. Sì, ma l'hai messa tu, in origine, quella di quell'anno lì aveva l'unica monossola, ma 50 stiamo parlando. Sì, non l'ha comprata con la sella lunga, l'ha comprata, aveva la sella lunga, nell'ottobre del 66, perché sono in direttivo qui. Anche se poi l'avevo fatto fare la targa, robe, e il libretto me l'hanno lasciato, l'autorizzazione, quello lì perché conosco gente, però non sono vero tipo, e lo metto annullato per lo tiro io. E niente, no, quando l'ha portata, non gliel'hanno portata perché lui la teneva a la riattata e non ce n'è andato, l'aveva portata a papo, con la stella lunga è uscita, robe. O che gliel'abbiamo lasciata messa loro, perché se no c'era anche con la stella, come stai dicendo tu, alcuni colleghi, il nonno ce l'avevano con la stella che stai dicendo tu, no, questa era lunga, era come, infatti io quando l'ho riposta era rossa questa stella, l'ho ordinata e me l'hanno mandata precisa. Scappa e montava con le stelle Aquila. Era un'opzione comunque la stella lunga, l'avevano in origine col sedino piccolo. E quella cosa ne fa la tiene lo stesso? E quella di nonno, però credo che la tengo. No, c'è scritto nella stella, in nera la stella, Aquila Continentale c'è scritto. Sì, sì, allora la stella originale, infatti l'Aquila montavano con le moto lì, successivamente mettevano, cioè arrivavano anche con le stelle lunghe, perché in due non si poteva essere sedere naturalmente nelle moto 50, per cui nascevano come origine con la stella normale, piccolina, il triangolino, che c'era il serbatoietto, si vedeva dietro per mettere la benzina, poi tutti si mettevano la stella lunga, qualcuno la ordinava già, andava alla piaggia, dice no, dammela direttamente con la stella lunga, che tanto si sedevano, raramente vedevi uno seduto da solo, ma nelle moto 50, minimo erano in due, se non in tre puro. Sì, no, come una persona robusta, ma la richiesta lui non lo so. E poi c'ha per due nomi di moto, ne aveva, già aveva quelle, prima di quella, che poi ne aveva due, pure che l'aveva data, uno scemo, l'ha fatto malissimo, c'ha aveva un Lamborghini a 4 tempi, non aveva da 48 a 4 tempi, camminava quasi a 100 km all'ora arrivava, e infatti ha detto no, non li hanno fatto più di queste moto, perché correvano troppo. Ma te lo fatto vedere la mia, il Mondial Super Sport, il mio, 50 Super Sport. Sembra di sì, ok, ma questa era 4 tempi, era lui, l'unico che camminava chiama, controllo la prima chiamata a un tipo, una cosa, perché c'è una buona festa per non tenermi due, capito, e mi metti a tutto, ma ero piccolo, no? Camminavo per camminare quella moto. Sì, sì, sì, diciamo, non l'ho vista fisicamente, però la conosco perché sono abbastanza aggiornato con le moto lì, diciamo, sono delle riviste, ogni tanto le vedo nei raduni, nelle cose del genere, nelle mostre, qualcosa si vede, è una bella moto. No, la mia, te l'ho fatta vedere, quella nuova, rifatta nuova totalmente, sei entrato, mi sembra di no che non te l'ho fatta vedere, è una moto super sportiva, un 50, sella lunga, un manubrietto, come si chiama, da corsa, la marmita a spillo in origine, la moto che camminava un bel per l'epoca. Ok, già lo so già, non so come ho fatto vedere un'altra moto antica da avere. Allora, solo per me ricordo una moto antica che mi ha fatto vedere, antichissima, però quella forse non l'ho vista, quella della Mondia. Quella so già di cosa si tratta. E per tornare a Ducati, poche persone, io lo facevo da zero il motore. Da zero, una volta uno mi ha portato tutto con i carter aperti, i carter vuoti, tutti spesi, me l'ho rimontato, ho detto quando è andato a UVF al primo colpo, ho detto già, ha messo in moto. C'ho anche una cosa, però quella non gliel'ho data a Salvatore, l'ha visto l'altro colpo che non gliel'ho data. Se tenuta, vabbè, diciamo quelle già si trovano più facilmente, ma i ricambi e gli attrezzi di officina, quelli sono cose particolari, non le trovi facilmente. Quelli erano gli attrezzi uno a uno, a tanta di solo ce n'era, quelli ne aveva avuti il signor Romolo, la mamma del signor Romolo, Romolo e Paolo, su tutti quanti i corsi, i catalogo, i cambi, tutta quella roba, gli attrezzi erano quelli di Romolo e Paolo, quelli che gli ho dato. Il poverino è morto qualche mese fa, l'ha saputo. E allora, no, l'ho saputo dopo, infatti siamo sentiti, sono andato là, com'era come un padre, mi ha imparato tante cose di quelle moto, signor Romolo, come metterle a punto, mi ha imparato lui, hai capito, a mettersi le mani, perché lui poi, non so per altro che so cosa, lì non le faceva più e mi aveva imparato come fare e come non fare, capito? Avevo subito memorizzato perché la passione era tantissima. E così è morto, io ero andato anche a trovarlo lì a Cosa, alla casa di Riccolo, però poi si doveva andare, stasera sempre impegnato, mio figlio me l'ha detto, allora sei morto signor Romolo, e subito lo ho messo in contatto, perché aveva letto l'Inter nell'anno morto, gliel'aveva detto a Claudio, e lì siamo andati, con lui lo scattano assieme, e sul computer, e un grande motorista era proprio Romolo. Sì, sono quelle persone che hanno fatto la storia del motociclismo, riparazione delle moto, parliamo di Sassa, di lui, Mariani e pochi altri, sono stati quelli, anche Masala, non so se lo conosci, sono quelle persone che una vita in mezzo al campo motociclistico, adesso sono passate di mano ai figli. Mariani è stato un po' disordinato, lui ha fatto un'azienda diciamo un po' più ordinata, dai, così idem Angelo Masala è venuto l'altro giorno in officina, lo stesso la moto, sta preparando una 500 Ava, te la devi vedere, ha paura, dice fa 130 all'ora con la macchina. E lui c'era la 500, non lo conosco il signoraggio, mi hanno regalato 380 gli strumenti nuovi, un serbatoio nuovo, una persona veramente bravo signoraggio, lo conosco a Macchianco, Mario l'avevo fatto fare perché era a fare il 380, era difficile a mettere a punto le pontine, era venuto qui a mettere a punto, perché io sì lo sapevo fare, però su due tempi non ce ne altro. E poi c'è una cosa, non so che fine ha fatto Leonardo Pioso. Leonardo Pioso era bravo il motore. No, lo conosco, vabbè, ma non era paragonabile a queste due persone. Lui faceva tutti i Benelli, perché lui era autorizzato Benelli, lo conoscevo molto bene. Adesso sono un po', pensavo che fosse successo qualcosa, però non l'ho visto da un sacco di anni. Però mi hanno detto che sta ancora lavoricchiando, qualcosina lo sta facendo. Lui c'aveva l'officina dove c'era la Opel in via Tiro del Feno, di lì vicino a via Zanfarina, faceva le moto Benelli, infatti l'avevamo preso da lui, il Benellino che avevamo noi. Sui Benelli era... A me Mariani mi ha dato tutto, non so se te l'ho fatto vedere, i manuali dell'officina, dei Benelli con tutti gli spaccati dal 756 sino all'ultimino, quello cinquantino più scaccino. Quando è un paio di mesi fa è venuto, mi ha dato uno di quei garellini piccolini tipo il Motorella, ce l'hai presente? Sì, che ce l'ho presente, il mio cugino ne ha uno, quello che c'è il Tabacchi, i Benelli, c'ha con le ruote più scusate, 3 marcia o 5 marcia? 5 marcia, il mangio, già mio cugino. Quella era la moto dei miei sogni quando ero piccolino, non tanto il 5 marcia, il 5 marcia aveva il cilindro rettangolare, era un po', diciamo, un po' più appariscente, col cambio a bilanciere aveva, che non era bello a vedersi. E a me piaceva il 3 marcia, perché io avevo due Benelli e avevo l'Export, quello con le ruote più grandi, e ce lo scambiavamo sempre con uno, non so se lo ricordi, Flauto, quelli delle scarpe, che c'hanno il negozio di scarpe, il figlio eravamo molto amici, lui prendeva la moto mia, io gli davo la sua, cambio 3 marce a mano però, sulla sinistra c'aveva. Poi c'era 5 marce, però non mi piaceva il 5 marce, il mio sogno era sempre 3 marce perché era quello tubolare, c'era lo stesso motore identico al mio, però era 3 marce, la mia la facevano anche 3 marce, però la mia era accelerata, era la moto dei miei sogni all'epoca. Purtroppo non le vede più in giro. Io ho il Benellino e il City Bike, che è una moto rarissima, nel senso, prima c'era qualcuna, sempre con le ruote piccole, all'acceleratore, c'ha la sella grande, quadrata, piccolina piccolina, c'ha le, diciamo all'epoca era una moto avveniristica, molto particolare. Mi ricordo tutte, no, io sempre usavo la e poi ho avuto tutto un cazzo, avevo 4 scambe, ho iniziato piano piano con 4 scambi, Ducati Marchi 3, che quella appunto dove c'era sormontata, e allora mi messa a posto l'osso, perché c'era mio figlio, ne aveva fatto il gelaio, e me l'ha fatta rimettere a posto, me l'ha fatta. Scambio ne avevo poi in questa casa, no, ma era un magazzino, 4 Ducati scambi, infatti mi chiamavano Muzio Ducati, e venivano a mettere le appunto la Ulciano, capito, quelli sono più libertani che questi non li vedo più, hai capito, e avevo anche dei cambi del 750 che poi al mercatino avevo venduto, hai capito, facevo anche io qualche mercatino, questi, e niente, lo vedo anche come si chiama con questi di Continente o di Napoli, anche questi che io non avevo, e li mettevo appunto bene. E adesso no, non se ne ha più fuggero qui. Capito, adesso mio figlio mi stavo parlando dei dati qui, però sono non stupido lo qui. Più là mi compro, se lo trovo in buone condizioni, giusto per farmi qualche giro, così giusto per appena, non che me ne sono liberato di tutto una mostra. Del Monster Ducati, guarda, sinceramente se lo vuoi te lo faccio buscare, ma non è stata mai una moto che mi è piaciuta, ha fatto un sacco di successo per i giovani antagonista del coso, dell'Hornet, della Honda, però questo genere di moto a me non piacciono troppo, perché sono moto una via di mezzo tra la sportiva e la moto tranquilla, però cammina nel gruppo, sono un po' pericolosine, diciamo, devi starci, non riesci a camminare piano con quelle moto lì, sono, a me piacciono le moto più rilassate, più tranquille. Adesso parlando dei motorini, mi devo mettere sotto, c'ho due ciao pure, uno, quei documenti e l'altro me l'hanno legato perché li avevano persi, comunque ormai non c'è più problema di niente, si può fare quello che vuoi, perché basta fare la denuncia, si possono rimatricolare tranquillamente, soprattutto i ciclomotori ancora più sì. E devo buscarmi proprio questo tipo di perfugas, mi ha detto che lui c'ha i copertoni, perché io c'ho il ciao, quello vecchio vecchio, con le ruote sottili sottili e grandi, da 20 pollici. Copertoni non è così, se lui mi ha detto guarda che ce li dovrei avere io, perché ciao la cosa è la stessa, una moto che ha fatto epoca e non ne vedi più in giro, ne vedo uno ogni tanto a strada, però non ne vedi più. Ma lo sai che può avere qualche collo dove li trovi? A tempio, a sole. Ma cos'è, un appassionato o un negozio? Ma primo a sole lo conosci? No, ma potrei andare anche da coso, lo conosci Giovanni Tonato? A Giovanni lo conosco, a Voglia che lo conosco, però lui diciamo c'è roba vecchia, capito, non è roba nuova Giovanni, lui tratta gusti molto, però roba di ciao per lo che Giovanni ne abbia. No, capito, una sola era andato a Tempio e c'ha un sacco di roba perché vedeva che i cambi nuovi e restava molto lento, poi ho pensato che a Zoli c'è il copertone, anche qualche ricambio. Ah, beh, poi c'era questo uomo, lo sai, fermati un attimo e... Hai presente il Viale Dante, che c'era quest'uomo che vendeva di tutto, che era praticamente faceva quel motocarri in Brema, presente ce l'hai? Sì, l'ho conosco benissimo perché mia nonna abitava di lì a pochi metri. La Brema, che c'aveva le Empoline e Brema, che prendeva dei motocarri, c'aveva un sacco di roba, quasi già abbiamo ancora qualcosa di vecchio, no? Ecco, queste cose già si trovano. E più che altro c'ho i ceti rugginosi. A me Giovanni Tola, siamo molto amici, nel senso, qualche volta, anche se siamo un po' che non ci vediamo, gli ho dato qualcosa io, lui mi ha dato qualcosa a me, mi ha tolto dagli uffici per certe cose, io l'ho aiutato per quello che posso fare nel mio lavoro, saldature, ripristine, cose così, gli ho regalato un motore di stornello, lui mi aveva buscato un serbatoio di cosa, di quell'olmo che c'avevo io, non so se te l'ho fatto vedere in fotografia, e altre cose, diciamo, la catena, dei mozzi mi aveva dato, dei tamburi, eccetera, eccetera, è una persona in gamba. Può anche che ci abbia, perché lui tiene anche dei cerchi di diverse misure, adesso ai mercatini io sono un paio d'anni che non ci vado più, però quando andavi a questi mercatini, mostro di scambio, cose del genere, a Torre Grande soprattutto, a Olbia all'inizio, ma ultimamente non c'era più niente, guarda che sono 2 anni che non la fanno più, e lì c'erano tutte le misure, devi andare e te le ricomponi, perché il mondo che avevo io ruota non ne avevo, ho dovuto ricostruirle io di sana pianta, prendere i cerchi, i raggi, rimontarli e fare tutto equilibratura e centratura. Poi diceva, no, adesso mi è venuta in testa di rimetterlo sotto, adesso un buco di tempo, ma lo metto, tanto c'è abbastanza semplice da ripristinare. C'ho tutto, mi manca soltanto i ceti che sono tutti rugginosi e basta. E poi i copertoni che sono molto vecchi. Poi c'è la sella, magari già si trova però di una di quelle sellerie e altre fesserie di minuterie. E per la frase con il ministro della vita, io ce le ha assolutamente e ci ritrovi alla piaggio, perché sopra loro si erano portato per 4 cerchi degli anni 60, cioè io sono convinto che la piaggio ha quei cerchioni lì, sia il signor Pinsuino, che sicuramente ha i cerchioni che li ha, ci ritrovi a casa e alla piaggio. Naturalmente deve essere una cosa, perché non sarà succede questo, anche se ci conosce molto molto bene, con noi in ottimi rapporti da ragazzo con mio padre, si conoscono, e molte volte non credo che ne approfitti, però loro guardano il listino, dice l'ultimo listino portava per dire 100.000 lire, dai dammi 50 euro, mi dicono così, per fare un esempio, vai al mercatino te li danno a 20 euro i cerchi, però molte volte se se ne vogliono disfare del costo di queste cose che loro non venderanno mai, ti possono fare anche un buon prezzo, come capita per dire la UPA, molte volte hanno dei particolari di macchine vecchie e ti dice beh dammi 10 euro e te la porti via, magari ne costava 50 a nuovo. Così è, non è stato le gestioni dei contatti nostri della CEFRI, che erano precedenti al Ducati Scambler, hai capito, e ne hanno roba, ne hanno, e così. Avevo comprato da poco la marmitta del vestito, perché aveva la marmitta Polini e l'ho messo originale per la moto, era una porata e l'ho ritornata come era normale. Però le incisioni sono convinto che se li hanno e se li daranno anche a prezzo buono, hai capito? E così ho niente, non è passata un po' la voglia di stare attaccato ai motori, l'ha visto, perché ne avevo fatto tantissime offre. E niente, cari, lo voglio libero, hai capito? Anzi, c'è ancora un po' di strumentazione, perché la strumentazione per il truppo di suonare, io credo che la cara sua, però qualcosa che ci piace e così, questo lo metto a posto, questo quello è poche morto e via dicendo, ok, per il momento lo ti devo salutare che è pronto a cena, tanto per dire, faccio la presenza a tavola con qualche frutta perché non è che ne ho molta voglia, poi nel caso se entri più tardi già sono qui, mi prendi? No, anche io poco fa mi parlo, Claudio se ne è accorto, tu non so se ne sei accorto, ho mangiato un panino al volo, poi c'era un po' di, fatto per le ragazzine, un po' di patatine fritte di quelle surgelate, tipo fast food, le ho mangiato qualcuno al volo così e un succo d'arancia, e ho finito. Tanto siamo, ieri notte tu non hai idea quanta roba ho mangiato, alla fine me ne sono dovuto andare perché mi stavo sentendo male da quanto avevo mangiato, ho detto no, devo andare via a casa, sennò qua mi scoppia la pancia. E sono arrivato, ho fatto quello che dovevo fare perché non ce la facevo più, figurati non siamo riusciti a mangiare tutto quello che c'era, perché ci siamo ammazzati con gli antipasti, sapevo già tutto il menù, però a un certo punto ho detto cavolo, ma almeno un assaggio lo devo fare, e siamo arrivati a 3/4 di coso, di cena, perché tutto non ce l'ho fatta a mangiare. Ci sono, sì, che mi riempiono, è una cosa, e infatti adesso mi sento, mi ha chiamato mia moglie, qualche frutta, dolci, nulla, e guai, c'è tra gli orologi, sono morto. Capito, infatti i panettoni ci sono, mia mamma cosa ghiaccio ne abbiamo, capitale sono qualche frutta di maggio e poi è stato qui. Va bene, ok, se voi se ci siamo sentiti continuiamo a chiacchierare dopo, tanto sicuramente entrerà qualche altro anche se ne fa fuori, non lo so. Per il momento ti saluto, ti auguro buona carica anche a te, saluto tutti gli amici in ascolto, lo lascio acceso perché poi deve essere qui di nuovo per a te il cambio. Buona carica, buon tutorial, io lo tengo acceso, ma rimango un pochettino, se nel frattempo entra qualcuno, però ci sentiremo in migliori occasioni. Ciao ciao, vediamo un po' sul 10 se c'è qualcuno nel frattempo. Sì, sono entrato io, un attimo vi ho sentito parlare a te, Roberto. Cosa hai detto? Sono entrato un attimo, vi ho sentito parlare. Ah, scusa, ma hai cambiato apparato adesso? No, assolutamente. Ormai è un po' la voce così perché ho un leggero mal di gola, non mal di gola, proprio un po', non mi sento molto bene, ho preso il, sempre la solita storia dell'allergia asma allergica. Ho capito, vabbè, mal di stagione diciamo, dai. E ogni tanto mi viene questa cosa, compresso, ecco. Che segnale ti arrivo, vero? Quasi 9:20. Ok, com'è l'emissione? Aspetta, aspetta, ti guardo anche l'elettoralità per gusto, ma a orecchio stai andando una bomba. Guardale un po', vedi un po' se va in basso e quanto scende. Piazza Napoli. E quanto scende lì sono all'indattore a te. Prova a parlare un attimo. Allora vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedi un po', 1, 2, 3. No, no, va benissimo, bella, bella chiara, nitida, senza imperfezioni, no, mi piace. Ok. Io ho provveduto anche a mettere un LRF allineare, che ancora non ce l'avevo, perché purtroppo nella piazza non trovi nulla, allora ho dovuto contattare il nostro amico e già mi ha mandato un po' di roba gratuitamente per ora e ho guadagnato subito una 15-20 watt con quel relè a te. Prego. Sì, avanti prego. Buonasera a tutti quanti, componenti del canale 10 e tanti auguri a tutti quanti. Sì, buonasera anche a te, tanti auguri, compagnia mia e di Giovanni da Itiri, avanti Giovanni. Sì, buonasera, non so chi sia, ben ascoltato, un po' basso come, come missione, ma ti ascolto lo stesso, auguri anche a te, vieni avanti. Ciao, Robè, non mi hai riconosciuto chi sono. Cosa, come si chiama? Adesso mi fai venire, già ti ho capito chi sei, però fammi ricordare il nome. Come si chiama? Non rubo un voto di memoria, te lo dico subito, dai, continua a parlare, te lo dico subito. Leoncino. Cappa, è vero, beh, tutto a posto, sì, passato bene il capolanno, sì. Saluto, perché tanto somiglia anche a, a Mondino di Alghero, però ci avete un segnale totalmente diverso. E no, no, benissimo, niente da dire, ci siamo divertiti, dai. Stavo parlando poco fa, abbiamo mangiato in abbondanza, infatti adesso siamo fino a domani, mi ho fatto un assaggino, un panino poco fa, veloce, veloce, un paio di patatine per dire, per tenermi in linea, perché ho mangiato in abbondanza ieri e per un paio di giorni mi basta pure. Ok, mi auguro che anche voi, tutti e due, avete fatto le stesse situazioni che sia andata bene anche per voi. Io, vabbè, ieri notte alla vigilia stavo lavorando, non è che si abbia fatto oggi, ci sono andato dentro a pranzo, dai, già è andato tutto bene. Ti lascio Gianni, Giovanni, vabbè Gianni, io non so se ti chiamo Giovanni o Gianni, ti chiamavo sempre Gianni, scegli tu. Giovanni. Giovanni, il nome giusto, Gianni applicato, vabbè, ce ne sono altri che mi chiamano così, ma no, non è una cosa brutta, va bene anche così. Perché io prima, sentivamo ti chiamavo sempre Gianni, poi adesso ultimamente ti chiamano tutti per Giovanni, infatti forse è per identificarti dall'altro Gianni Capri 2 e Gianni Doppio Rum. No, no, ma il fatto è che anche il mio vero nome è Giovanni, non c'è da fare. Capito? Vabbè, comunque non c'è problema. E via. Beh, Leoncino mi arriva un po' basso qua, ma comunque l'ascolto lo stesso. Ma un bel basso sono già. No, il segnale è buono, 8 quasi. È la modulazione che è nasale. Quindi dipende anche che zona, vabbè. Dipende anche dal coso, dal cambiamento del tempo, quella roba lì, boh, non lo so. Comunque, io sono da partendo, sto usando 5 watt di baracchino, senza aiutini, niente, non c'ho niente lì, oh già. No, ma va bene, va benissimo. Un po' più di microfono, capito? Tutto lì. Problemi di microfono, Boh, stare andando a quel paese la batteria, oppure c'è qualcosa a portare. C'è qualcosa che non va in questo microfono, guarda, adesso più là glielo faremo controllare, dai. Oh, Leonci? Dimmi, vabbè. Ma questo è un più 4 o un più 5? No, questo io sto usando il Galaxy 2 con il microfono dell'Intec, hai capito? Ma che c'ha il classico difetto dell'MB più 4 con quella piastrina metallica che c'è all'interno, ti dà un effetto metallico, diciamo presenza di tonalità media e media acuta, però carenza di tonalità bassa, e noi attenuavamo questo difetto togliendo quella piastrina e mettendone una in plastica o qualche materiale diverso, meno riflettente, e mettendo un po' di ovata, un po' ti toglieva quell'effetto metallico. Ah, cappa, vabbè, adesso... No, questo baracchino lo devo far portare a controllo dal padrone, dai, che ce l'ho in prestito e glielo dico adesso, dai, vediamo un po'. Ma comunque la voce è chiara, no? Stiamo parlando di perfezionismo, dai. E molta gente se lo sognerebbe riuscire come dici tu, però abbiamo constatato che la modulazione presente di tonalità media è molto scadente di cosa. Comunque va benissimo, adesso ascolto perfettamente, segnale 9 più 15, non ho niente da cipire, la radio è chiara, 5, c'è di meglio ma c'è molto molto di peggio pure. Ok, riprenditela Giovanni. Ok. Stavo dicendo, no vabbè, ma non c'è problema, capito, va bene anche così, cioè non è che succede niente, no? No, mi stai arrivando qua 9-10, radio super 5, 6, picchi positivi, già. Ok, no, va bene, io ti ascolto benissimo, cioè benissimo intendo dire che per me va bene, se non ci fosse quella piccola nasalità. Ho capito, forse perché ho la voce un po', anch'io come hai detto tu, un po' rauca, perché me ne sto appena alzando dal letargo, ho capito, dunque dopo un piccolo strappato di ore che ho fatto, che non ho riposato stamattina, sono rientrato, erano quasi le 5:30 e non ho dormito, alle 10 ero già in terra, dunque poi stasera dopo pranzo ho detto no, boh, chiudo tutto e non voglio sentire nessuno, mi faccio quattro dalle 2:30 fino adesso, quel cazzo. Ma di cosa ti occupi, Leucci? Non ho capito. Di cosa ti occupi se non sono indiscreto? No, io settore bar, hai capito, settore bar, barista, dietro il banco, dai. A quanta sarei? Può sapere la zona o preferisci non dirlo? No, guarda, per adesso sono fermo, Robert, sono fermo. Prima lavoravo con i miei genitori, avevamo il locale giù al coso della stazione, dunque l'abbiamo tenuto per 31 anni, dunque non voglio che non ho fatto l'esperienza. Poi già, se dovesse entrare Claudio, ti spiega tutta quanta la mia situazione, come perché Claudio ci conosciamo più di 30 anni, dunque abbiamo fatto vite miracoli. Sì, però io noto una cosa, tu hai dei cali di segnali di 10 punti, da 9:20 vai a 9:10, cioè da 9:15 vai a 9:05 e poi risali, cosa c'è, qualche problema? Non lo so, perché non so perché cosa sta dando questo, adesso questo problema di questo baracchino, boh, vediamo adesso come finisce queste feste. Porterò Antonello Pomponio con il test per controllare l'antenna, che non ci siano stazionari, hai capito? No, sì, anche tu Giova questo difetto. Che cosa? Questo decadimento di segnale, cioè c'ha dei picchi da 9.5 a 9.15. Sì? Come si cala di potenza, amico? Come che c'abbia qualcosa attaccato che poi butta giù il potenza? Ma l'amico Leoncino? Di Leoncino mi sto riferendo. Leoncino, vieni avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per adesso non me ne sono accorto, ci farò caso. Ma se è andato bene? E forse perché ero di sono Roberto, al microfono, ho capito. Adesso sei pulito, tranquillo, ma poco fa sei sceso di 10 punti, non è poco, per cui o c'è qualche rientro di qualcosa o non lo so, l'apparato non sta erogando quello che deve erogare normalmente. Ok. E può darsi, e forse e adesso sei da un po' basso. Lontano, dalla distanza, oppure quando parlo vicino, ho capito? C'è stato come tocco il microfono e il capo pure, c'è perché bisogna montarlo e fare tutti quanti nuovamente collegamenti bene, capito Roberto? Oh Roberto? Sì, dimmi, Giovanni. Guarda che hai qualcosa in antenna, che poco fa è venuto portante, hai sentito un crack, uno scricchio tipo, presente quando tu prendi un filo, lo sfreghi, definite insieme, no? Che lì si arriva il crack, proprio uno crack brutto sulla tua modulazione. Questo c'ha problemi, lo devo portare, lo devo fare riallineare, no, vabbè, diciamo qualche problema, qualche scricchio io lo so che ce l'ho, però non me lo dai in antenna, nel senso io lo sto vedendo a lui, a te è sempre uguale il segnale, lui come parla in certi momenti arriva normale, 9.15, poi di colpo scende a 9.25 e poi risale, tranquillo, probabilmente c'ha qualche connettore lui che non sta andando bene, io lo so, quel difetto me lo fa ogni tanto, infatti vuole essere qualche componente da me che non è. Mi hanno già spiegato che difetto fa, cioè è già successo questo difetto su questo tipo di apparato, volevo portare a vedere, c'è una saldatura fredda e da qualche problemino, però mo, per il momento sto utilizzando questo, rimane così. Sì, io non l'ho visto calare, la verità è, non ci ho fatto bene caso, poi se si ripresenta, riprendi un attimo Roberto, sto finendo una cosa. Cappa. Vabbè, oggi non è niente di grave, magari è solo una connessione o non lo so, se c'è qualche problema di alimentazione. L'alimentatore va bene per quel tipo di apparato o è al limite? No, io l'alimentazione ce l'ho con cosa, attaccato con, come si può dire, un coso di computer, capito? Quello che sta dentro dentro quell'altra cosa lunga, capito? Ne ho smontato, c'era il coso, quello, come si dice, Maxport, dove quello lì, l'ho fatto fare la modifica per dargli la corrente da 12 volt a 8 watt di potenza, capito, massimo. E adesso l'hai rifatto lo stesso problema, sei sceso di 10 punti e l'alimentatore con gli switch di computer stai parlando, però quelli danno 12 volt, attenzione che questi apparati hanno necessità un pochettino di qualche volt di più, normalmente sono fatti per stiamo parlando di 13 volt, 13 volt e mezzo, per cui quello lì se 12 volt te li dà costanti è una cosa, ma se scende appena appena da 12 scende a 11, 11 e mezzo, la potenza erogata dall'apparato si riduce parecchio. Io adesso me ne sono accorto, se è calato. Perché? Vado in breve. Ah, vabbè, dai il controllo di questo microfono. Aspetta ogni volta, aspetta, te lo dico subito. Aspetta, guardiamo tutto quello che devi provare. Vai un attimino, Daniel. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com'è? È abbastanza buona, però se forse è troppo vicino al microfono stai parlando, che microfono è questo? Guarda, poi perché ce l'ho aperto, vabbè, capito? Stavo facendo le regolazioni che questo è un preamplificato con eco e tutto quanto, quindi ho tolto l'illuminato, ecco, volevo sapere com'era tutto qua. Sì, sì, la radio è buona, 5, niente da dire, il segnale di livello microfonico va benissimo, e leggermente, proprio per essere pignoli, un pochettino più di acuti avresti necessità, però probabilmente di lì l'orientamento, se è tutto aperto, magari non ce l'hai orientato nella direzione, sono abbastanza direzionali con le capsule, magari probabilmente perde un po' di tonalità per quel fatto lì, bisogna però sentirlo chiuso, cioè mi ha detto che è aperto, non è dentro l'involucro. No, no, ce l'ha aperto Roberto, sta aperto. E niente. Vabbè, dai, adesso prova a richiuderlo e ci sentiamo tra un po', dai, se ci siete. Ah, ma che cos'è l'apparato? Il 48 sto usando, vabbè. No, oh, già va bene, la radio, bella forte. Ok, vediamo se Giovanni è rientrato, avanti Giovanni. Sì. Sono qua. Io lo sento bene, Daniele. Cambiando discorso, ti voglio fare una domanda tecnica. Questi relè coassiali, siccome ho visto che costano anche abbastanza, ho visto un progettino su internet, sono critici da costruire? Beh, un relè coassiale lo devi comprare. Si può anche realizzare, ma è meglio comprarlo. Ma se si usa, sì, va bene benissimo anche in HF. Va benissimo in HF. E come no? Costano una trentina di euro ognuno. Non ti ha detto 80 euro, 80 euro magari. E una trentina di euro. Ci sono su ebay.com. Su ebay.com? Beh certo. Se no cosa cerchi? .it. .it non c'è un accidente. Ma ti serve un relè per scambio antenna? Sì, sì, però non per le HF, no, per le bande più alte diciamo. E vabbè, quello copre molto. Ci sono con uno o due scambi, capito? Sì, sì, no, diciamo a me basterebbero anche due antenne. Ho visto poi un progettino bello, utilizzano una scatola stagna di quelle in metallo della Vitticino, utilizzano dei connettori a pannello, diciamo questo è un bel lavoro quello che la fanno, però devi stare attenti al discorso della perdita, perché lì ci sono delle cose un po' particolari, dai. Ma guarda, sempre bisogna vedere l'uso che ne devi fare, come lo vuoi installare, quanta potenza vuoi pomparci dentro, perché più sale con potenza più costa, no? No, no, no, io sto parlando della ricezione, non della trasmissione. Ah, la ricezione già è facile, la ricezione è molto facile, trovi a quattro soldi quelli, tra detto una catena di euro, ti salvi bene, no, senza problemi. Mentre con i diplex cosa si può fare? Cioè li puoi utilizzare, cioè servi con un'antenna, servi, cioè con un apparato servi due antenne, così? Sì, beh, è chiaro. Ce ne sono anche a più uscite, cioè a più ingressi, con una uscita, a più ingressi, quindi praticamente può provare più antenne. Il ragionamento dovrebbe essere tutto lì, no, niente di particolare. Comunque sono buoni, sono ottimi le coassiali, eh. Non hai perdite, niente, commuti tranquillamente. Sì, sì, no, per evitare queste calate di fili, ne ho troppe di calate, mi sto rompendo le scatole, perché adesso devo mettere un'altra antenna e mi sono rotto le scatole di coso. L'unica cosa della fregatura che ho fatto, il motore del rotore l'ho messo a tre fili. Sono stato poco intelligente, dovevo mettere uno almeno a 5 fili, in modo di permettermi di collegare dalla stessa calata, dallo stesso cavo, quello è un tripolare, utilizzare uno pentapolare minimo, anche di più, in modo da aumentare, cioè predisporre per un futuro relè coassiale. Ha bisogno di due fili di alimentazione del relè coassiale. Quello coassiale scambia lì con... ce ne sono di vari tipi. Ce ne sono di vari tipi, dovrei guardare, te l'ho detto, in ebay.raju2 per vedere che cosa mi dà. Ce ne sono anche addirittura telealimentati, no? Ora bisogna vedere cosa intendono loro. Sì, quelli telealimentati li ho visti io, ho visto anche i rotori telealimentati. Purtroppo in trasmissione non esiste, se no sarebbe troppo bello, tipo utilizzare una linea di coso, di trasmissione senza cavi, tipo trasmettitore di video, alimentare l'antenna, sarebbe, vabbè, diciamo per piccole potenze si può fare. Ma che era quello. Capito? No, piccole potenze lo puoi fare. Vediamo se è rimasto ancora Giuseppe Leoncino. Avanti Giuseppe. Scappa, via. Appunto proprio mi ha dato la parola, io vi saluto, dai, causa carica. Ci sentiamo dopo se coincide, se no tenetevi tutti e due salutati, dai. Ok, dai, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao ciao. Prendo io, dai, ciao Giuseppe, buon tutto, buona carica, fare le fare, o se non ci sentiamo buona giornata per domani. Vai Giovanni. Ciao Giuseppe, ti aspettiamo le cose, buon tutto. Ciao me. Carta. Grazie. Ciao ciao. No, la prossima, ciao. Ok, ok, ok, quindi. Quindi, il discorso è sempre il solito. Bisogna darci dentro con le ricerche per trovare il miglior materiale e quello più a basso costo ovviamente. Certo, se mai io li ho visti minimo 200 euro che li fanno fare, vabbè stiamo parlando di cose che lavorano su frequenze anche abbastanza alte, perché il problema di lì è l'operazione, la frequenza operativa molte volte e il carico di potenza che reggono, perché magari se puoi trovare uno per dire a 50 watt ti costa 100, se lo trovi a 500 watt ti costa 3 volte tanto. Sì, il problema è la potenza ovviamente, se devi fare una commutazione da 1 kilowatt, insomma, diventano dei bombolotti, no, da mettere su un'antenna, sono stagni, eccetera, eccetera. Sì, infatti, no, a me interessava soltanto eliminare questo fatto di scendere un cavo per ogni antenna. C'ho sul motore, ci ho montate due antenne, e c'ho due cavi, ne volevo togliere uno e lasciarlo direttamente su un unico cavo e commutarlo con relè. Poi adesso vediamo un pochettino. E che costano, come ho detto prima? Ah, io se Dio vorrà che riusciamo a terminare a casa, faccio vedere come scendo con le carate giuste, come dico io, gli faccio tutto un sistema e dentro un'unica scatola a 7 posti, vedi tu, altro che stare con le lì. Sì, già lo so, ma io adesso sono stato aggiornato sul discorso satellitare, ormai su satellite lavorano tutto su fibra ottica, non fanno più niente di cavi coassiali normali, tutto su fibra ottica, parliamo di impianti di un certo livello, a 3 km di distanza hanno 0,3 dB di perdita, cioè cose impensabili con i cavi coassiali. È vero, quello è vero. Mica stiamo parlando di un ferro vecchio, un pezzo di ferro, cioè rame, è un buon conduttore ma la fibra ottica è molto più veloce. Parliamo di velocità di tutto, è una cosa completamente diversa, non so se in trasmissione sino a che potenze si possono applicare. Segnare la procedura, cioè cosa vuol dire impostare la trasmissione, comunque so che ci sono state delle migliorie, sotto quella delle migliorie, eppure non so sino a che punto, sono utilizzabili, come io non è che ne faccia grandi uso su certi tipi di macchinari, ma per trasmissione dati, capito? Per trasmissione dati sono tutti ormai corso, ma anche io in vettura, in officina, delle BMW abbiamo trovato con i fari, con gli aloxeno comandati in coso via fibra ottica. Cioè sono dei tipi. Io ripeto, fibra ottica la uso molto nei compact disc, nei collegamenti per quanto riguarda appunto DVD, eccetera, o interconnessioni, diciamo così, con cablaggio in un multisistema, sempre fibra ottica. Infatti così, nei file adesso sta tutto, gli impianti digitali sono tutti a coso, con la connessione ottica, non ne utilizzano più di cavi vecchi RCA, quello con sistema classico RCA. Ormai va sempre bene, cosa non è che uno è obbligato per forza a mettere così, no? Come è? Perché? Fanatismo, puro fanatismo, però io molti qua ancora non ho messo niente, ho utilizzato ancora i vecchi cavi di vecchia concessione, cavo schermato normale, però c'è gente che purtroppo buon per loro o peggio per loro controllano anche il discorso dei cavi di alimentazione devono essere di quel tipo lì, il cavo delle casse deve essere a 300 euro al metro se no non ne comprano. Vabbè, avanti. Ah, Daniela, questa parte guarda che adesso è quello chiuso adesso il microfono. Daniel si è leggermente alto, abbassa un pochettino e allontanati un po' dal microfono. Aspetta, guarda così, Robè, com'è? A me va bene, mi piace, è buona modulazione. Va. Anche se vuoi stare a fare il PTT e c'è un piccolo problemino per la faccia bene, no? Per il resto vai, se la te conferma lascio così, allora vai. Sì, infatti sta facendo qualche rumoretto di troppo. Comunque la radio è chiara, bella e pulita. Chiedi per conferma anche a Giovanni, te lo rilancio, avanti Giovanni. Prova? Guarda un po', Giovanni, sono te, Qual è il campo dell'azione? Ma troppo compatta. Abbassa, non c'è bisogno di spingere così tanto. Regola la meglio, diminuisci mai. Guarda, adesso è a mezzogiorno l'ho messo. Guarda un po' come... Appena di più, tagliela appena di più. Guarda, così adesso è verso le due, dai. Appena. Guarda, ora, uno, due, tre, com'è? Appena. Aspetta, adesso le 15, com'è? Sembra troppo, leggermente indietro, ritorno, ma un pilino. Guarda un po', uno, due, tre. Così va bene, rompe una 10. Sì, Daniele, il problema tu lo sai cos'è, che alzi la tonalità di voce. Certi momenti anche per me adesso, vedete, quando lui ti ha corretto eri troppo alto. Per come è riandato la prima volta andava bene. Comunque quest'ultimo passaggio va bene. Devi moderare, diciamo, stare sempre alla stessa distanza parlando e la stessa intensità di voce. Se tu alzi un pochettino, subito si tende a strappare e satura un pochettino. Cara, guarda adesso così. 1, 2, 3, 4, 5... No, va bene, voce tranquilla, così va bene, senza, potreste anche sollevarlo un pochettino, ma va bene così secondo me. Va bene, vai, riprendete e adesso vado a fare un po' di carica, dai. Ci ascoltiamo più tardi, alle prossime se coincide, dai. Ciao. Sto leggendo, Giova, uno spettatore dell'intervista che hanno fatto, vabbè tu già lo conosci sicuramente, buongiorno, James, buongiorno. Vabbè. Quello, l'unico difetto è che la persona sarà una persona super competente, perché c'è tutta la storia di quello che ha fatto quest'uomo, è impressionante. Però, come si chiama, c'è una presunzione che a di poco è esagerata. Sì, vabbè, ma cosa è successo poi alla fine? Allora, questo è uno di quelli, di quei vostri sacchi della tappa del taglio. Hanno fatto un'intervista, non so se la guardi mai, se ti è capitato di leggerla, l'intervista, c'è cioè la rivista internet, TNT Audio, non so se l'hai mai vista. L'intervista stavamo parlando un po' in generale della fedeltà di odierna, dei tempi inutili, eccetera, eccetera. Ha detto che ancora non c'è una cassa che lui, che la soddisfi, una cassa acustica. Dice, si è avvicinata la Dina Audio a quel tipo di ascolto che fa lui, lui ascolta solo per cuffie. Di amplificazione ha detto, stavo parlando di discorso tra valvole e transito, ha detto la valvola va bene, però c'ha dei limiti che sono le alimentazioni. Poi stavamo parlando dei MOSFET e delle cose, ha detto assolutamente no. Lui lavora, adesso non ricordo che tipo di componentistica utilizza, e dice che sono 50 anni che non si fa niente di nuovo nella tappa d'età, a parte una persona che ha costruito una cosa che dice non menziona, dice l'unica novità, per il resto ricopiano solo progetti di altre persone e li fanno, e l'unico che ha fatto una cosa di nuovo è lui, guarda a caso. E cosa ha fatto? Dai, te lo dico al volo, ce l'ho qua l'appunto, mi dico una cosa. E ora poi l'hanno chiesto, chi è che è stato quello che più di tutti l'ha aiutato nel corso, nella sua storia? E dice, vabbè, dice, Sidney Smith, non so se lo conosci. Vabbè, vai avanti. Poi parla di cosa, allora aspetta, il modello, allora, questo qua, che della Marantz, che ha regalato al mondo intero i suoi grandi apparati, a valvola, oltre al favoloso amplificatore allo stato solido, modello 15. In più ha dato maggiori contributi alla realizzazione del sintonizzatore SQR modello 1. In seconda posizione Dick SQR, naturalmente, è più brillante dei progettisti del mondo dell'FM, poi Ed Miller e dottor Litterfield, senza dubbio il più grande scienziato con il quale sono venuto in contatto negli ultimi anni di lavoro. E infine vorrei citare Pascon King, che è stato amico per oltre 25 anni. Sì, vabbè. I progettisti nel campo di sintonizzatori FM in aspetta ce ne sono, Fischer ad esempio è un buon sintonizzatore, poi uno degli apparati molto belli è il Model 9 della Marantz, molto molto bello, e vabbè, questo è tutto. bene per le puntine, i capi, tutto lui fa. Certo, comunque lui dice, ti leggo l'intervista riguardo alle valvole. Adesso in realtà non è importante che il prodotto sia fatto con gli escrementi dell'asino o di un altro, adesso la cosa importante è il risultato finale. Allora, aspetta, quello delle valvole. Allora, l'unico svantaggio delle valvole naturalmente sono le limitazioni imposte dal trasformatore nell'uscita, anche se ho visto almeno un apparecchio che è davvero superfacente nelle sue prestazioni alle basse frequenze. Non voglio dire il nome di questo apparato. Per quanto riguarda bene possono andare, per quanto bene possono andare a me i MOSFET non piacciono. E non mi sono mai piaciuto e mai mi piaceranno. Sono i buoni dispositivi per l'alimentazione, ma non per gli esseri attivi. I polari sono l'unica strada da seguire e non ti sembrano a quelle favole 98% dei progettisti. Bravissimo, bravissimo, deve essere uno con le palle quadre. Sì, in effetti i MOSFET neanche a me piacciono. Siamo perfettamente d'accordo, sono molto instabili, suonano male, se non sono ben allineati poi partono facilmente. Vero, verissimo, il MOSFET a me non piace, piace solo nell'alimentazione. Guarda, come te l'avessi detto io. E poi stava parlando del discorso dei controlli di tono, che qua lui c'ha una filosofia diversa da quello che può essere la logica normale. Di tono portano fin dove portano, e poi c'è il controbilanciamento armonico, e l'abbiamo capito, e comunque il controllo di tono sono da buttare via. Tu dici che sono da buttare via? No, non sono da buttare via. Questo risponde. Allora, i controlli di tono sono obbligatori, lui dice. C'è qualcuno che può dare forse può mostrarmi una della sala d'ascolto perfetta. In natura non esiste. E dagli estremi di banda ci sono sempre dei problemi. Non ho mai costruito un preamplificatore privo di controlli di tono. Fare questo sarebbe pura stupidità. Infatti ha detto una cosa giusta. In effetti, i miei sono tutti con il sistema Baxandle, quelli che realizzo io, o a valvole o a transistor, tutti hanno il controllo di tono, non il loadless. Il loadless non mi piace perché poi bisogna stare lì a calibrare, a portarlo a un certo livello, ma proprio il controllo di tono, e agiscono 10 kHz, 10 e poi mi pare che deviano attorno 1 e qualcosa, capito? Fondamentale, bassi, alti, capito? 10 kHz come impostazione principale. I medi, appunto, li faccio partire 1,5, ma non li uso mai i medi li lascio flat. Regolo sempre 10 kHz con 12 dB, circa 10-12 dB solitamente. I bassi parto da circa, mi pare, un 40 Hz, non ricordo bene, fino a uso spostare i 40 e i 100 Hz uso spostare. Sempre parlo di alti e bassi e non di equalizzatore né grafico né parametrico. E poi questo qui è quello che ha costruito l'Ampizilla 2000, che dicono sia l'amplificatore più copiato nella storia dell'alta fedeltà. E poi ti parla di cosa riesci a fare la tua amplificatore. No, io uso il metodo Williamson, modificato da me ovviamente con i miei progetti, e suona radio a dir poco e da sballo, troppo bello, troppo pulito come suono, una cosa tanto di cappello, quindi no, non ha molta importanza la configurazione, ma appunto il risultato finale. Io col mio Williamson riesco meglio perché poi lo splitter e il pilota sono tutti configurati da me in un certo modo, si prestano molto bene per le varie controreazioni, anche senza controreazione, quindi tutto ben studiato. Hai dato tu di cosa, di questo progettista Williamson? Appunto dal nome dell'inventore, del progettista, il primo che ha fatto il sistema Williamson, molto molto bello, e naturalmente è un sistema a controfase. Io uso le valvole messe in parallelo di solito, le uscite, pure un valve splitter a long tailed fire, e le amplificatrici sono da me molto molto curate. Uso questi G5WA, quelle che microfonicità zero, tutto zero, quindi curo molto questi aspetti e sono meticoloso, via, lascia stare. Sì, vabbè, ci sono fuori. Questo sicuramente è un grande ingegnere, una persona che è nato negli strumenti musicali, dice, poi piano piano lui si è reso conto che non c'era niente nella cassa dell'epoca ha girato un po' di tutto, tutti dalla Marat, la Sumo, quella che ha costruita lui, la SAE, diverse marche grosse americane ci ha lavorato. Poi l'hanno bruciata, è stato con i giapponesi, non so con che ditta è entrata, alla fine poi ha mollato tutto e sta progettando questo amplificatore nuovo, totalmente nuovo, ma è un personaggio tutto a sé stante, il classico tipo americano, di quelli megalomani, però ha delle idee, diciamo, che vanno ancora. Beh, sono persone che conosco, non sono pezzi di salame, no? Quella gente che ha le palle quadre, capito? Non sono personaggini così, no? Quella gente che ne sa, è gente che sa come impostare le cose. Anche a livello commerciale hanno i cani, quindi è molto legato al marketing, nel senso che riescono poi a vendere il loro prodotto. Io magari posso fare un amplificatore, ti spacca la faccia, però poi se non lo vende, tanto è inutile che l'abbia realizzato. Può succedere anche questo. Ora, capito. E ci sono molte cose da vedere. Il campo che lei fa è ustico. Capito, vabbè. Non è una cosa da prendere così alla leggera. Io ho i miei progetti, ripeto, i miei sistemi e vendo. Ho venduto anche i finali RF alla Russia, ho venduto dappertutto, sempre su ebay.com, e come in tutte le maniere. Ti dico che ce n'è da divertirsi, se prendi. Il suo pure è un campo talmente enorme, ogni tanto si produce qualche componente di nuova generazione, eccetera, eccetera, tipo questi nuovi che stanno facendo questi classe T, eccetera, eccetera, e modificano tutte le concezioni passate di qualche anno fa, diciamo, è una fase evolutiva continua, data per età. Dove non ci sono state grossissime modifiche nel campo dei diffusori acustici, hanno aumentato soltanto la potenza di resistenza, diciamo, la potenza d'ingresso, però qualitativamente, diciamo, cose, miglioramenti esagerati ancora non ne ho sentito. Allora, intanto io sono contro le casse super crossoverizzate perché non serve a nulla, bisogna studiarle bene, anche lì quindi, ci sono tante cose da poter vedere. Sono per le casse caricate in bass reflex, mi piacciono moltissimo quella sua soluzione automatica, i miei sistemi di solito le contengono tutti e due. Riesco sempre, lavorando a 16 ohm, a fare dei lavori spettacolari, però qui in Sardegna non c'è nulla. Comprano più dall'estero che qua, no? Qua non c'è proprio niente. Qua a livello di passione forse qualcuno c'è Cadeddu, Lucio Cadeddu, che su Accaglia adesso pratica, che è bravissimo, molto molto bravo, che è su TNT Audio e tanti altri, però non in confronto al numero delle persone che o di famiglie che sono in Sardegna, gli appassionati dai fai sono pochissimi. Ma lo conosci di persona Lucio Cadeddu? No, non mi è mai capitato. Abbiamo scambiato qualcosa, però non mi è mai capitato. Anche perché dovrei andarci di persona. Questo è quello, diciamo, recensore di quella rivista TNT Audio, quella che ti stavo dicendo io. Infatti a me l'input me l'ha dato lui per prendere quegli amplificatorini piccolini nuovi di nuova generazione, quelli in classe T. Ho visto una recensione sua, l'ha super vantato, dicendo, considerando il prezzo, dice non c'è niente meglio per quell'ordine di prezzo, non può comprare nessun amplificatore hi-fi, cioè non trovi niente, neanche a livello di computer spendi così poco per avere quella qualità. Quale amplificatore? Quelli della T-Amp, quelli col Trippa, quel sistema nuovo digitale di coso, ci avranno dei difetti, ma io l'ho ascoltato, io ne ho tre di quegli amplificatori, ho iniziato dal primo che me lo sono fatto arrivare dall'America, quello a batterie, poi l'evoluzione che te lo davano in accoppiata con il suo alimentatorino, e poi ne ho fatto arrivare uno diciamo verso maggio-giugno da questo violoncellista famoso in tutto il mondo, guarda caso l'ho conosciuto così per sbaglio, ecco, e poi alla fine ho scoperto che questa è una persona, uno dei pochi al mondo a quei livelli di strumenti musicali, e lui c'aveva uno di questi amplificatori che l'ha fatto lo stesso arrivare dall'America, però il più potente della famiglia, il 50 watt per canale, e l'ho provato, mi sono trovato più che bene. E non posso dire niente, chi mi ha dato l'input è stato proprio questo Lucio Cadeddu di coso, di come si chiama, di che, come si chiama quella rivista, TNT Audio, ha vantato molto questo amplificatore, una novità per quel costo, dice non c'è niente di meglio, e ti posso dire che sono stato entusiasta anche io. Allora, diciamo che è un amplificatore, ma una friggitrice, non serve a nulla, perché l'ho provato in tutti i modi e non mi ha soddisfatto per niente. Sono ritardato, un eco in sottofondo, un suono molto metallico. Sì, per quel prezzo non c'è di meglio, in effetti cosa compri? Non compri nulla. L'Hips Tripart, quello lì, è stato una delle tante invenzioni per emulare la valvola. Ma come la valvola, non ce n'è, possono cantare quanto vogliono, in turco, in ebreo, possono cantare la maremma, però ti garantisco che no, non ce n'è, non ce n'è e non ce n'è, perché la valvola suona da Dio. No, aspetta un attimino, stiamo parlando di due cose diverse, io ti sto parlando, poi ti sfido a trovare un amplificatore, anche spendendo 5-6 volte più quel prezzo che hai pagato, quello che suoni meglio di quello lì, naturalmente c'è di meglio, è normale, no? Ripeto a dire, io ragiono come i maestri Zen, no? Non so se è presente i giapponesi cosa dicono, ma i maestri Zen dicono non ho così tanti soldi per spenderne così pochi, praticamente sono soldi buttati, no, è un amplificatore che non ci fa nulla, nel senso che è un amplificatore, è un minestrone, rumoroso, un sacco di problemi, se parliamo dei fai, parliamo dei fai, altrimenti parliamo semplicemente di un amplificatore pagato 4 soldi, tutto lì. Io non la vedo così, io ce li ho tutti e tre, ti posso dire, naturalmente vuole rodato, nel senso non è che lo prendi e lo provi, perché quando l'ho provato anche io all'inizio ho fatto distorsioni e cose del genere, volevo lasciare almeno mezz'ora a funzionare con l'amplificatore e poi fare le dovute valutazioni, naturalmente lo devi far funzionare con delle casse molto efficienti, perché se lo usi con casse con impedenze critiche, cioè sotto gli 8 ohm non funziona bene, addirittura ti dà un suono sporco, prova casse da 8 ohm effettivi, nel senso che rimangano stabili senza scendere troppo, e io ti posso dire che mi ha fatto delle soddisfazioni molto di più di altre cose che costavano 10 volte tanto. Poi naturalmente tu ci avrai un altro tipo di filosofia, la valvola, stiamo parlando di cose diverse, io parliamo di transistor, che ti posso dire è dato la sua da fare a tante altre cose molto ben più costose. E infatti l'ho visto, si è fatto la pupù sotto, affiancato la mia 6 watt qui per canale, l'ha fatto nero, con casse ad altissimo rendimento, quasi 110 dB a passo verso i 120. No, niente, non serve a nulla, è un amplificatore che ti dà il peggio di sé, ti dà fuori. Sì, è un amplificatore, magari lasciando scaldare, cominci tu un po' così, facendoci l'orecchio, riesci ad accettarlo, ma sostanzialmente quando inizi a farlo pompare, se ci sono casche che veramente rivelano quello che è un amplificatore, ne senti di pasticci, si mangia il pianoforte, il basso è per conto suo, gommoso che non può più, le voci sono trattate alla grezza e via dicendo. Sono amplificatori che vanno bene per quello che costano, ma non vanno bene in hi-fi, perché non è hi-fi, hi-fi lo dicono loro, ma io ce l'ho l'hi-fi, è come se ce l'ho, e paragonandolo gli fa le scarpe, gliele toglie, gliele rimette, gliele sbatte in testa. L'hi-fi è hi-fi, un amplificatore comprato per fare voci in una bancarella da tornaio è un altro discorso. Funziona se va bene, se, però funziona, ma non è mai come deve essere. Cioè, se ti faccio sentire i sistemi collegati ad apparati seri, specialmente se tu monti un giradischi o un buon CD, mettiamola così, un buon CD, lasciamo stare, e senti quello che devi sentire, quello lo acchiappi e lo butti alla mondezza, direttamente. Anche perché ha un grosso problema con l'amplificatore rumoroso, che non ne può più, proprio causa del tipo di commutazione, nel senso che la classe di funzionamento è basata sull'H più o meno, o in D. Stiamo parlando di una classe che lascia desiderare, tutto quanto questo fatto per avere rendimento a bassissimo consumo. Ma il problema è che prepara la distorsione, eccetera, eccetera. Non lo so, io non sono così tragico come sei tu. Posso dire, rumore non ne ho sentito più di tanto rispetto ad altre cose, ad altri amplificatori ben più prestigiosi e rinomati. Il limite nel senso che la distorsione poi, però come spazialità e separazione siamo in dinamica, siamo ad altri livelli, perché rispetto ad altre cose tu hai detto che è molto lento a salire, secondo me è esattamente il contrario, l'ho visto molto molto molto veloce come corso, come risposta. È veloce e sfalsato. È sfalsato, in ritardo, no, non è questione di lentezza come pensi tu, no, non funziona così. Sono dei chipset particolari, poi ricordate una cosa, i maggiori recensori delle riviste, delle altre riviste sono pagati proprio per pubblicizzare certi prodotti. Io che molto liberamente non sono interessato a vendere nessun tipo di T-Amp, perché per me è un applicatore che non serve, allora giustamente subentra il fatto che ognuno dà la sua versione giusta, così come magari stai dando tu la versione, però dovresti metterti a fianco un sistema che suona veramente, quello lo butti via, ma proprio lo butti, cioè non lo provi più, ma non ho provato solo uno, no? Li compravo e li regalavo, li ho comprati a 20 euro, a 30 euro, a 40 euro, in tutte le maniere l'ho comprato. Versioni pomelli color argento, fatti, da assemblare, di tutti i tipi. Non lo so, vabbè, io ti ripeto, non sono così critico, non lo sto utilizzando perché adesso ho messo un altro amplificatore, stavo aspettando che mi sistemassero il mio, quello grosso, purtroppo mi hanno preso in giro, non facciamo nome chi è stato, ma chi lo sa già lo sa cosa mi ha contato con lo scherzo senza aver fatto niente e me lo sono riportato a casa. E adesso sto utilizzando Yamaha e posso dire va più che bene, sono contento. È nato lo sound, andava bene della Yamaha. E che hanno combinato l'ampli, che è successo? Vabbè, guarda, te lo dico velocissimamente, mi hanno preso in giro per 3 anni, l'ho dato a una persona che sicuramente conosci anche tu, non mi piace parlarne male, però purtroppo mi ha preso in giro per 3 anni, l'ho dato anche qualche usina di soldini, più di qualcosina, non mi ha fatto niente. Ha preso in giro per 3 anni, alla fine ho detto fa una cosa, torna a Miro, restituiscimelo, e me lo sono riportato a casa. Questo è un amplificatore che ha un suono spettacolare, una vecchia generazione della Reva che è doppio mono, è completamente separato, è un finale bellissimo, anche esteticamente enorme, pesa 25 kg di amplificatore, c'ha un trasformatore di una bestia, doppio, completamente separate le due unità dal canale destro al sinistro, c'ha il potenziometro di volume, controllo di volume con i cuscinetti a sfera, attenditi come è costruito questa macchina, c'ha due gomiter enormi, bellissimo, c'ha una bella linea, questo è degli anni 80, tira fuori 300 watt per canale, però c'ha un suono, tu lo metti a piena potenza, non c'ha un filo di distorsione, una qualità spettacolare. Un progetto della Revac, bellissimo, invidiato da altri costruttori, perché ho letto anche delle recensioni, le hanno sempre vantato questo tipo di tipologia. Con quei transistor, quelli grossi, c'è una batteria di transistor che non finisce più, bello, tutto dissipatore, enorme. Ma il fesso sei tu che l'hai dato a persone incompetenti. Non è facile, no? Ma cosa vai? Non applicatore della Revac a chiunque passa? Ma per favore, capito? Non conoscono la struttura nel più assoluto dei modi. Solitamente quando uno si vanta, quando dice ma ci penso io, la faccio io, la sono ancora dai piedi, no? Sono così, ne ho visto più di uno, qui sono arrivati apparati bisestratti, insomma, mi fanno ridere, perché poi fondamentalmente uno se non ha nozioni lì se ne deve scappare e via. Vabbè, ma comunque cos'era successo fondamentalmente in questo apparato? Allora, io i finali non so se siano partiti, il problema è che c'era un canale, allora, il canale funzionava perfettamente, l'altro canale c'era un problema, però era dovuto a un problema di alimentazione, non mi ricordo cosa era successo, io l'avevo preso, usato questo amplificatore, ma l'avevo fatto come non funzionava, nel senso che funzionava soltanto un canale, io lo facevo andare soltanto per un canale, tanto e non succedeva niente, tanto il canale era indipendente, anche se non c'era carico non succedeva niente. E si è capito che cos'era che non funzionava, erano questi dei pilota del dello stadio per amplificazione, adesso non mi ricordo che componenti, mi sembra erano degli MIOTA 15030 o 39, adesso non mi ricordo. Avevo telefonato allora l'Eva che c'era ancora e ve l'avevo fatti spedire. Loro mi hanno detto, guarda che questi vanno sempre cambiati, accoppiati, ho detto no, non c'è bisogno. Alla fine ne ho presi senza prendere il componente successivo e tale fatto si è partito anche quello lì, ho fatto una stupidaggine. Tra parentesi non me l'hanno neanche fatto pagare, solo la leva che me l'hanno regalati questi componenti, perché c'era un amico di Padova che li conosceva bene e me li ha fatti spedire, dico, però ho detto attenzione, quando cambi questo componente devi cambiare per forza anche l'altro. E io ho detto no, non c'è bisogno, non c'è bisogno. E sta di fatto che poi lo stavo facendo rimettere a posto a una persona, non so cosa, ho sentito puff un momento, probabilmente è stato un attimo senza carico, è partito penso qualche protezione o qualcosa del genere. Per cui i finali non è detto che siano partiti. Comunque questa persona mi ha detto, io te lo rifaccio totalmente, te lo smonto dalla alla Z, tutta la componentistica, condensatori, eccetera, eccetera, ti rifaccio tu, eccetera, eccetera. Il transito li facciamo arrivare direttamente di quelli selezionati, che sono tutti accoppiati, devono arrivare a coppie, direttamente dagli Stati Uniti. Ci sono stati 3 anni per arrivare a questi transito che non sono mai arrivati, mi ha detto un sacco di balle. Poi quando era arrivato a un certo punto mi ha detto, no, sì, tutto a posto, devo solo colorare, lo sto colorando, ci vuole anche le trasformazioni. Un attore, una balla, devo riavvolgere, adesso invece una balla, lui non l'ha mai toccato, l'ho preso, me lo sono fatto restituire e lui non l'ha mai aperto quell'amplificatore e mi ha fatto prendere 3 anni di tempo. Fresso sei tu, grande fresso sei tu, scusa se te lo dico così apertamente, ma è per volerti bene, è per volerti bene, intendiamoci, non è che ti sto dicendo fresso per cattiveria, ti sto dicendo fresso per scelta, cioè in riguardo a quell'amplificatore. Hai fatto la stessa chiotteria. Oh, Igoro mio, sapessero quello che dicono almeno, sapessero quello che dicono. Ciò che mi dà più fastidio è l'ignorante, a me boh, bastano, tanto inutile sollevare commenti. Come hai detto tu, non serve a niente. Il risultato è quello che conta. Il risultato è negativo, quindi è negativo l'operatore in quel caso. L'operatore tecnico. Punto e chiuso. Questo è il ragionamento. Uno, o scegli di non fare un apparato perché non hai ricambi, perché no, come faccio io? No, non te ne faccio, se mi punto che non te ne faccio, non te ne faccio. Ma toccare un reva, mettere le mani dentro quell'apparato che non sanno manco il principio di funzionamento, perché ci sono parecchie cosettine piccanti dentro quell'apparato, e poi uno lo restituisce con una figura da baccalà fritto, lasciamo perdere. Allora, quell'apparato chi l'ha preso in mano ha detto che lui lo conosceva perché ne aveva già riparato su questo tipo di apparati, ha detto sì lo conosco benissimo, questo lavora in classe A, sino a una certa potenza, ha detto tutto quanto, mi sono fidato, perché era capitato di fare altri lavoretti e non gli posso dire niente, me li ha fatti su alta frequenza, però quello che parliamo, non bassa frequenza, me li ha fatti e è andato tutto bene. E, sì lo conosco bene, mi sono fidato di lui, ha detto guarda, di solito lo faccio per un paio di mesi, poi da un paio di mesi sono passati 3 anni, a novembre di quest'anno ha fatto 3 anni e me lo sono fatto restituire. Una domanda, questo amplificatore c'ha così lavorare in AC e in DC, spiegami un pochettino perché sono un po' poco a conoscenza di quel tipo di sistema di cosa. Alternate current e corrente continua, corrente alternata e corrente continua, e beh? No, perché c'ha 2 ingressi, AC e DC, infatti sì, può dire corrente continua e alternata, però c'ha 2 funzionalità, possibilità di funzionamento questo amplificatore. Sì, quindi o l'alimenti corrente alternata o l'alimenti corrente continua. Praticamente se hai l'alimentazione di rete interviene, cioè il lavoro lo fa il trasformatore interno con il suo stabilizzatore e tutto il resto. Che poi la tensione ai finali è data in un modo particolare, oppure lavora in corrente continua con un alimentatore già in corrente continua dall'esterno. No, ma io sto parlando di stadio di funzionamento, non alimentandolo io, cioè tu stai dicendo alimentarlo per dire a corrente continua io o alternata a 220, no, io parlo, il circuito di funzionamento può funzionare in 2 modi, sia in continua che in alternata, il circuito suo interno dall'alimentatore. Sì, e te lo sto spiegando, ci sono varie possibilità, è la stessa cosa, identica, ma sì, ma stai parlando, guarda che stai parlando dell'alimentatore. E tu stai intervenendo sull'alimentazione, non sul circuito di amplificazione. E tu mi hai detto AC e DC. Allora, il significato, dici bene, non è che per caso è la classe di funzionamento che varia e tu stai dicendo una cosa che non c'entra niente. Cioè, allora, Revax è un po', non so se hai visto quegli amplificatori per chitarra che passano da triolo a pentolo, e ci sono tipi di amplificatori che poi switchano o lavorano solo in classe A o solo in classe AB1. Ora io non so, che cosa hai letto tu, cosa hai visto in quella? No, allora, infatti sto pensando come classe di funzionamento, come tipologia di funzionamento. Siccome dietro, nella parte posteriore, dove ci sono gli ingressi RCA, ci sono due possibilità: di utilizzare una parte dell'ingresso dove c'è scritto DC, il corrente continua, e l'altra RC alternata, quello lo so. Però, probabilmente interviene sulla classe di funzionamento. Se mi dici il modello, sicuramente lo schema qua. Dammi il modello. Ma io sono stato su internet, addirittura li stanno vendendo 4.000 euro con l'amplificatore, dici 600 della Revac, su eBay se vai bene non ci c'è, 4.000 euro li stanno. No, mi interessa proprio, sì, ho capito, il dici 600, va bene, ok, vediamo un pochino se ho qualcosa, no, proprio nel database del mio PC dovrei avere qualcosa dove vi è anche lo schema elettrico compresso. Perché poi spiega molto bene, io ho proprio il manuale di assistenza dall'A alla Z della leva. In effetti è un po' di tempo che non vedevo qualcosa del genere in giro, ma dico, ci dovrebbe essere anche, allora vediamo un pochino, vado sulla sezione schemi e vediamo un po' se lo becco. Riprendi. Lo schema elettrico, se è su eBay, va bene, adesso legge molto, c'è fotografato l'apparato e sopra nel coperchio c'è proprio lo schema di funzionamento. Non lo so, io se bene ci vado mai perché non mi serve. Mi c'è anche in America che basta che gli mando le mail, me lo mandano subito. Era giusto per capire cos'è che sta dicendo a riguardo di quella commutazione, perché non è impostata così. C600, ma no, qua è tutto male, vediamo un pochino cosa succede qua dentro, riprendi. Sì, io sto cercando se trovo la figura del posteriore, ma l'ho trovata l'altra volta, aspettatelo su Google, anziché entrare su cosa, su disco. No, ma è cosa googoli? Sto cercando di andare a servi. Fanno anche la versione Pro 600 che è uguale al DC600, però il Pro 600 è senza gli strumenti e c'ha due ventole dietro per uso gravoso, 24 su 24. Sì, ti credo. Ma se non trovo lo schema proprio e risponderti così, sto cercando di capire. Allora, il signor Revax cosa montava lì come impostazione proprio di apparato, perché dovrebbe essere quello con gli strumentoni davanti, capito? Con i due occhioni tipo Macintosh. Sì, c'ha due strumenti enormi, grandi, ad ago, bellissimi, calibrati in decibel, e lo strumento, il potenziometro è lo stesso, calibrato in decibel, c'ha tutti gli scartini, ogni cosa c'ha le sfere dentro, le microsfere, ogni scartino corrisponde a un guadagno di non so quanti di... Allora, mi pare che quello lì avesse a che vedere con la controreazione, capito? Mi pare, non sono sicuro, ma mi pare che avesse da vedere con la controreazione, quel tipo di impostazione lì. Sì, infatti sto pensando a quel discorso lì, che sia dovuto a qualche tipo di tipologia di coso, di amplificazione. Non c'entra niente con l'alimentazione del coso, del come si chiama, esterna, perché poi funziona a 220 volt in alternata, però negli ingressi dove ci sono i connettori, lì c'è scritto l'ingresso, io glielo posso dare, c'è scritto in AC o in DC, in alternata corrente continua. No, non c'entra niente, sto pensando, no, sto cercando di capire. Allora, tu ce l'hai sull'ingresso, sugli RCA? Sull'RCA ce l'ho. Quindi già le cose cambiano, sto cercando di capire cosa non ho fatto. E se tu mi dici DC AC, allora uno che mi dice di corrente continua, in pratica fuorimenti l'apparato dall'esterno, però insomma entro un contenuto alimentatore, lo sa anche ma abbiamo 3 anni. Se poi mi dici commuta la DC AC internamente, non ha senso, perché comunque la tensione deve essere filtrata e stabilizzata in taluni casi, quindi non c'entra niente. Per cui, nel vedere cosa tratta, nel vedere lo schema, ma leggi proprio AC, oppure leggi qualcosa sulla contrazione, c'è qualche simboletto? Ma non ce l'ho qua a portata di mano, sto cercando di trovarlo su internet, però c'è proprio ACDC e sopra, se adesso a leggere quella c'è scritto, perché adesso ce n'è uno sotto mano qua di quegli amplificatori, e c'è la parte superiore dove c'è lo schema elettrico di funzionamento a blocchi. Ma se non lo vedi è inutile, non lo vedi e basta, a blocchi. Bisogna vedere a quale blocco appartiene, secondo me quello è qualcosa che ha a che vedere con potrebbe essere anche una cosa, potrebbe essere, io sto pensando, che non sia per ingresso sbilanciato o bilanciato, capito? Ma sto pensando, non riesco ancora a mettere a fuoco cosa mi hai detto. Eia, proprio così, bilanciato o sbilanciato, così, dopo quel discorso lì ho dovuto, adesso che mi ricordo, spiegami quel discorso lì. Allora, ingresso bilanciato e sbilanciato, in pratica si tratta di un sistema che se tu hai dei cavi molto lunghi verso l'unità finale, ti annulla i ronzi. Cosa succede? In pratica un ingresso bilanciato è un 50 ohm con riferimento a massa, invece lì è flottante, quindi va in controfase l'ingresso, capito? Quindi in caso di lunghezza di cavi, per dire se c'è molto cavo lungo, dove c'è il rischio che ci sia qualche rientro di qualcosa, utilizzi quel tipo di filtraggio, diciamo. Non è un filtraggio, è un ingresso, bilanciato o sbilanciato, è un tipo di ingresso che è utile quando le linee lunghe praticamente sono soggette a ronzio o locali dove c'è una forte radiofrequenza o rumori vari, ecco che allora si ricorre a questo sistema. Io te lo sto dicendo della leva che dovrei avere proprio lo schema di quello lì, ma adesso non ricordo perché l'altro giorno ho spedito a un amico di Napoli, ho spedito uno schema di un amplificatore similare dei tempi, infatti si è inginocchiato perché non riusciva a trovarlo, io l'ho regalato, diciamo ben chiaro. Solo che non riesco a capire adesso come l'hanno fatto l'ingresso lì. Non riesco a capire come l'hanno fatto l'ingresso, so solo che l'applicatore che ha appunto, sì, ho visto lo schema anche, c'è così, lo schema diciamo a blocchi sopra, capito? Allora, intanto non è come dici tu, vediamo un po' se ho trovato qualcosa, c'è acoupled, dc-coupled, accoppiamento solamente con la catenata o accoppiato in continua, così c'è scritto. Non ce l'ho qua in questa stanza perché lo dovrei togliere fuori, siccome è un bel pesante, è infilato dentro un mobile, sto cercando qua di capire se c'è, perché c'è scritto la studia della Rebac qua, e infatti c'è scritto quando l'avevano presentato quell'amplificatore a Chicago, dice c'erano non so quanti decine di tecnici ingegneri, soprattutto giapponesi, che lo fotografavano, dice c'era prestazioni da primato, era una cosa spettacolare, infatti lo suo bilismo non distorceva niente, io lo mettevo a massima potenza, era una cosa potenza, non c'era un filo di distorsione, poi non si sporcava neanche il suono, infatti ci tenevo di pararlo per quello, portava un sacco di soldi quella pista. 300 watt, è 300 watt quel finale, pesa 23 kg e mezzo come peso netto, ok? Revac Torino appunto, la fabbrica 300 più 300, il carico 4 ohm, 4 ohm da 180 più 180 RMS, 300 più 300 da, a 4 ohm, a 4 ohm da 300 più 300, ecco, come poi dice che dipende dal pilotaggio, dove ci sono varie cose, qui da 20 a 20 kg, da 20 a 20.000 Hz, può lavorare anche con ingressi da 1,25 volte RMS, ed è tanto, a 22 kg di impedenza. Sì. E lui ho capito di cosa si tratta. In pratica, questa storia della C-coupled, vediamo se riesco a cavarne i piedi con qualche schema così, allora, vediamo un po' se si vede o se me lo boccio qua, allora, no, la accidenti, ho lavorato per passare anche qua. Allora, è un amplificatore che in pratica monta quei finali a forma di mandorla, giusto per dire elementare, no? Che sono metallici. Sì, sì, hai detto benissimo, quelli metallici, tipo i transistori finali degli alimentatori 3055, simili a quelli. Esattamente, ok. Quindi le coppie distribuite su dissipatori messi in verticale a fianco dell'alimentatore, che è un nucleo a schermato a due due condensatori verso la parte anteriore, poi alle due spiline di alimentazione messe in verticale, eccetera eccetera, e poi c'è la scheda di torrente di comando a sinistra, così sì. Questo è nelle foto. Dopodiché gli ingressi sono comunque pin jack RCA normalmente. Puoi fare l'accoppiamento in corrente continua. Cosa significa? Ci sono due ingressi, adesso è più chiaro, se mi dici così, a C-coupled e C-coupled. Praticamente ci sono degli ingressi RCA destro-sinistro che puoi entrare normalmente con un circuito che non ha tensione continua sull'ingresso, invece c'è un altro che lo puoi accoppiare in continua per eventuali controreazioni messe sull'ingresso dell'altro apparato. C'è un amplificatore che magari può lavorare con un'uscita in continua, cioè senza il condensatore di disaccoppiamento, un po' particolare, compreso come te, tutto lì. Uno accoppi direttamente sul circuito in corrente alternata, intende il solo segnale BF, l'altro intende invece accoppiamento con la corrente continua più il segnale BF. Sì, diciamo, questi sono fatti per usi particolari, professionali, quando c'hai per dire, perché normalmente si montavano nelle discoteche, nelle cose così, in impianti di un certo livello. Adesso mi sto guardando qua, ce n'è uno rotto, che lo stanno vedendo maltrattato, tra l'altro gli hanno attaccato i dissipatori, picchio aperto, eccetera, eccetera, c'è un display mezzo spaccato, lo stanno dando 150 euro trattabile, per pezzi di ricambio. La potenza arriva a 16600, a cui bisogna sostituire il finale di un canale. Il resto funziona bene, da utilizzare volendo anche per come parte di ricambio, tratta di un amplificatore di qualità e potenza non indifferente. 150 euro trattabile, però non c'è, il telefono non c'è niente. La Servin Vega faceva degli apparati simili, molto molto belli, ma Servin Vega addirittura aveva i finali montati su zoccoli. Poteva estrarre il finale, era bellissimo quel modello lì, non mi ricordo quale, ma erano dei rimuni, suonavano come questo, mi erano apparati di queste percussioni proprio per discoteche. Questo in effetti sarebbe un apparato da indicare per una discoteca, come sezione finale per una discoteca più che altro. Sì, infatti questo era montato. Poi l'ha portato in una discoteca, ha lavorato pochissimo perché poi l'avevano sostituito, che c'erano quelli più, diciamo, performanti, quelli a MOSFET, quelli già sottili che tirano fuori potenze esagerate, però niente a che vedere con questo qua, questo è già un apparato di alta fedeltà, quelli della discoteca di adesso sono ultra sottili, 1000 watt e pesano 5 kg. 300 watt su 8 ohm e ne pesa 23, ne ha detto bene, sono due cose diverse, c'è un trasformatore d'alimentazione che pesa quanto un amplificatore normale di adesso. No, su 8 ohm da 180 più 180, su 4 da 300 più 300. Sì, sì, si è detto bene, 300 su, ma dichiarati, ma ne tira molto, ma molto di più con l'amplificatore. No, picchi di 600 watt, io mi ricordo quando avevo lo strumento, arrivava a 600 watt di picco quello. No, non è questione di dare i picchi così, bisogna vedere la squadratura, la cresta, che cosa c'è, sarà poi quello fondo e tutto. Comunque, vabbè, il disegno è vecchio e un po' lascia a desiderare, però è comunque valido tuttora, se è messo a punto correttamente, non è una macchinetta da mettere a punto così, quello lì come accendi salta tutto, se non è tutto perfettamente in linea. Lì il bias vuole controllare in un certo modo, caro mio, se no come accendi lì ti cucina subito la sezione finale, ti cucina il pilota, pre-pilota della mezzovaglia casino, c'è uno specchio di corrente particolare per il CMMR, quindi capito, per appunto la riiezione comune ai disturbi, tutte queste cose, è un po' particolare. Sì, lo so, diciamo, era costruito poi senza economie, cioè c'ha un prezzo del rack 19 pulici, cioè, hai visto, è grande anche come amplificatore, c'ha un frontalino d'alluminio anodizzato, sarà almeno 4 mm, grosso grosso, bello, fatto bene gli strumenti, bellissimi ad ago, sottili sottili, proprio fatto bene senza con l'unico limite, lo sai cos'è? Che si sono un po' cagati sotto i connettori per attaccare gli altoparlanti, non li hanno mai messi di quelli per grossi spessori, considerando le potenze di gioco potevano mettere un connettore un po' più grosso, come hanno messo infatti nel Pro 600, nel Pro 600 gli hanno messo quei connettori, quelli grossi che ci puoi mettere quelli a banana, mentre questi erano quelli a scatto semplici da spellare il cavo. E gli attacchi RCA c'ha questo qua, mentre quello professionale c'ha gli attacchi quelli a norme diciamo diverse, quelle professionali a 3 pin. Ecco appunto, il riferimento a quei ingressi accoppiati continuo alternata, cioè oppure BF direttamente accoppiato disaccoppiato, così dovrebbe essere, hanno a che vedere col CMRR, cioè col modo comune di reazione ai disturbi, o come modo di reazione vacchio, che è più preciso, è un modo di eliminare i rumori, no? Cioè nel senso che in pratica riesce a eliminare anche i rumori dovuti all'alimentazione. È molto particolare quel sistema lì, aveva un CMRR altissimo, era rinomato per quello. Ma ormai, un vecchio progetto, funziona, se ben allenato funziona. E poi c'è un 10600, la cosa più bella è che il 10600 vale molto di meno del 400, mi scusate, però 600 che sono identici, cambia soltanto che c'ha le ventole e non ha gli strumentini, che tira qualche parte in più, riescono a fartene tirare su perché l'hanno costruito con l'elemento del raffreddamento, quello lì costa, lo danno nel mercato molto di meno, è molto simile, ti ricordi lo faceva anche l'Autoline, lo faceva una cosa simile se non sbaglio. Autoline è Mondezza. Va bene, da cenare che mi ha chiamato poco fa. Sentiamo in seguito Roberto, tante belle cosce. Complimenti, un buon tutto. Riprenderemo il discorso della Reva più là. Mi ha fatto piacere di averti sentito. Sì, anche a me, intanto qualche formazione tecnica è bene sempre recepirla. Dai, ci sentiamo, buona carica, buon tutto, ce la devi fare. Ciao, ciao. Ciao, le prossime salutazioni, ben per l'ascoltone, ciao. Mangiato? No, diciamo, ho mangiato più di un'ora fa, forse anche di più, un panino veloce, non avevo di fame, due patatine di quelle tipo McDonald's. Poi io ho saltato il frutto la cena, perché quando dobbiamo mangiare, abbiamo finito alle 4 di mangiare, lui, per carità, ho mangiato i setti ganasci, dove? Che te lo sto dicendo, infatti non avevo voluto mangiare, adesso per far venire la fame dopo stanotte quando si è addormentato ho fatto un panino veloce con salame e un po' di fontina, ma proprio per togliermi l'eventuale fame di stanotte, due patatine e un succo d'arancia l'ho fatto, ieri mi è uscita dagli occhi la roba, addirittura non l'ho neanche mangiata tutta, proprio non ce ne stava più, me ne sono dovuto andare già perché mi stava facendo male la pancia, ho detto io andiamocene via, sennò qua ci rischio che facciamo danno. No, io ieri notte già mi sono divertito, ho mangiato un bel, però poi abbiamo cantato al karaoke, eccetera, eccetera, quindi siamo divertiti. Il brutto poi è il giorno dopo, perché ci ha invitato a casa la cugina di mia moglie, quindi ha di nuovo altro pranzo mega galattico, e non si riesce mai a smettere in queste feste, poi c'è l'Epifania, poi c'è questo, poi c'è l'altro. Io a mia moglie ho detto, mi non mi presentare né porcetto né agnello né gamberoni domani, perché io non li mangio. Oh, la carne, a parte vabbè, io non ne mangio di carne, già. Siamo arrivati alla cosa di mare, io la carne a quella lì ho detto no, non ne portate neanche, tutte quelle porcetto, agnello, eccetera, eccetera, ho detto lascia perdere, non ne portate neanche di coso, perché ci siamo crepati con gli antipatti e con tutto il resto, i primi e la roba di mare, ho detto, poi la figurati, i primi e i secondi, vabbè i secondi già li ho mangiati perché mi piacevano, erano veramente, cioè mi piace il tipo di cosa, però i primi li ho mangiati assaggini proprio per far vedere che li ha mangiati, perché non ne avevo voglia, l'ho già assaggiato da prima. Caffaia. E se per là sei andato, Robe, dovevi decidere? Ehi, allora, io ci vado spesso perché vado sempre a mangiare la pizza un sacco di volte, quasi tutte le settimane, però... No, non mi aspettavo una cosa carina, diciamo, non c'era tanta gente, io pensavo che facessero tutto tavolate tutte insieme, invece no, ci hanno fatto a noi il nostro tavolo e poi l'altro tavolo un altro gruppo di persone, ci sono state una quarantina di persone, ma gente tranquilla, simpatica, non c'era macello, un po' alla fine, nel senso di hanno messo il karaoke, le cose così, si scherzava e si rideva, però molta gente elegante, non burrutosa, perché a me mi è capitato certe volte, gente iniziano a fare gli scemi, a festare, a fare, quando c'è tutto quel macello, no, invece eravamo tranquilli, abbiamo mangiato tranquilli, senza che nessuno ti desse fastidio per questione del macello. Vabbè, no, è meglio la gente tranquilla, magari che festeggi, però sempre comportandosi bene, anche io sono andato allo stesso parete. No, io ieri notte sono andato a Usilo, c'è sotto Usilo, nella strada nuova che porta Usilo lì, no? Poi dovevano fare, non c'è presente quella strada vecchia dove dovevano fare la strada e poi l'hanno fatta che hanno mollato quel ponte così. E era lì dentro la campagna. Era lì dentro la campagna e siamo stati bene perché abbiamo mangiato a gogo e poi abbiamo cantato al karaoke, quindi io ho portato il mixer, ho preso tutta la attrezzatura e abbiamo cantato al karaoke. E ogni anno lo facciamo, anche l'anno scorso mi hanno ringraziato per aver, diciamo, rallegrato la serata e cosa, hanno cantato tutti gli anziani, cioè io le canzoni che mi chiedevano mettevo, cioè c'erano quelle di piacere. C'era quello che gli piaceva, ti posso dire, Lucciolano, li mettevo Lucciolano, insomma un po' a tutti ho contentato, ho messo la rotonda sul mare, tutte quelle canzoni, insomma siamo divertiti, che hanno ballato, fatto, eravamo in tantissimi, c'era una bancata enorme in questa campagna che proprio allestita per gli amici, ha fatto questa casa proprio per gli amici, per accogliere gli amici, c'era il camino, c'è praticamente una tavolata lunghissima, sarà di, ma penso che sia 1, 2, 3, 4, 5 tavoli ci sono, tutti quanti uniti. Poi c'è il monitor per il karaoke, insomma c'è un po' tutto per entrare delle amicizie, capito? Oltre a voi la cosa c'è questa casa che diciamo è un grosso camerone grande, che c'è il bagno, c'è tutto quanto dove accolgono le amicizie quando fanno le seminate, fanno tutte queste cose. Cioè, ma forse ho capito perché qualche amico mio di oggi lo va di lì, lo sento a parlare di questo posto, probabilmente sarà per lo stesso posto, perché ho degli amici, quelli che sono affianco a me, gli avrei detto già sono di oggi, quelli del tuo mista. Ah, così, è buono, non lo so. Comunque c'era gente anche a Livelli, c'erano dottori, eccetera, era gente molto in gamba e poi un'accoglienza, Roberti, con la verità, diciamo che io, non è che siamo stati arrivati, abbiamo messo un tanto a testa e abbiamo comprato di tutto e di più, non ci siamo portati un tanto a testa per non stare uno a spendere di più, l'altro di meno, abbiamo fatto una grossa spesa e abbiamo mangiato di tutto, c'era ogni ben di Dio, roba che ti riusciva dagli occhi, io quando siamo arrivati al primo non riuscivo più a mangiare, guarda, c'erano degli antipasti che erano favolosi, c'era persino la zuppa alla gallurese, guarda, di tutto qui. Sì, lo so. No, anche noi siamo stati bene, poi alla fine ha tolto pure le lenticchie per dirti, per concludere, dolci, lenticchie, panettoni, sfumate, ma non era, quando non era più voglia già, ero da almeno da un'oretta che me ne volevo andare perché c'avevo un mal di pane, cioè ho detto se non vado a fare quello che devo fare, se no ci rimango male davanti a tutti, e stavo registrando le dinastie, ho detto io ce ne andiamo, alle due me ne sono andato, ho detto basta, è piovuto dove eravate voi? È gocciolato, ma quella pioggerellina fina, di quella proprio che sembra finemente pulverizzata, così, diciamo. E, diciamo che lì si sta bene, perché è un posto molto appartato, c'è solo quella casa con quella campagna, quindi puoi fare il casino che vuoi. Abbiamo alzato il karaoke anche a manetta, insomma un po' tutto insieme ci ha divertito, dai, siamo stati molto bene. E anche l'anno scorso l'avevo passata lì. Ah, vabbè, sono praticamente sono Lizzi di questa amica mia, lei va ogni domenica lì perché sono con le famiglie che ci riescono tutti zii, cugini e cose del genere, tutte le domeniche mancabilmente. E siccome ci tiene a noi e cose, ci invita sempre. Naturalmente ci quotiamo, facciamo la nostra bella figura lo stesso. Se mi hanno ringraziato, mi hanno detto grazie per aver allettato la serata col karaoke, l'è proprio rallegrata, perché si stavano mettendo a giocare a carte e poi alla fine si sono deciso tutti a cantare, abbiamo fatto un casino nero. Abbiamo ballato, guardi tutti di più. Compagnia, quello, la decisione è quello. Poi, no, io me ne sono andato perché, a parte mi stava già venendo il sonno, quando è seduto il giorno sveglio, avevo promosso, ho detto mi riposo un pochettino dopo pranzo, invece niente, perché poi la sera abbiamo aperto l'officina, ho messo un po' in ordine, ma anche se ce ne siamo andati subito, un paio d'ore, un'oretta siamo stati, però non ho riposato bene dopo pranzo, mi ero andato presto la mattina, ero un po' stanco, ma alle due non avevo più gara, ho detto io ce ne andiamo. Anche se sicuramente ci saremmo divertiti, già c'era anche il karaoke, il ballo eccetera eccetera, e poi la gente in gamba, non erano i disgraziati embriagoni, nel senso che poi ti rovinano la festa. L'interessante è quello, quando si sta bene con il mio ambiente. No, io ti dico l'ambiente doc, sono tutti cognati, zii, cugini, c'è gente giovane, gente di una certa età, gente anziana, insomma gente della nostra età, un po' di tutte le età ce ne sono, là, perché una famiglia molto unita, si riuniscono tutti e naturalmente io sono sempre stato molto rispettoso, mi comporto bene in tutti i posti, quindi sono stato ben accettato e mi hanno rinvitato anche per il giorno dopo, cioè praticamente per oggi mi hanno rinvitato a riandare e non ci sono andato io perché avevo già questo impegno, perché se no sarei ritornato anche oggi. Tante non avete finita, tu sei una terza arrivata. Ha penso che fossero le 3:30 quando me ne sono andato. Poi me la sono presa con calma, tornando piano piano, tranquillo. Saremmo arrivati qua verso le 4:15, così. Sì, ma siamo stati molto bene, anche perché poi avevo bevuto, sai già questo vino che ho fatto io, ci sono i cugini che sono proprietari, assaggia il mio, quello è più buono, poi quello che abbiamo consumato di più la bottiglia, si è vantato, la sta tenata, ha detto, il favorito sono stato io, avete bevuto tutti quanti il mio vino, vuol dire che era più buono. E poi succede sempre così. No, quando sono arrivato io, penso che Piazza d'Italia lo stesso abbiamo finito verso le 3:30, perché sentivo la musica sino a tardi, io sono arrivato verso le 2 e sentivo la musica, non so se sentiva forte, tutte le finestre chiuse con le volgine abbassate, che tra di troppo c'è. Proprio vabbè, le casse erano orientate verso via Roma, l'amplificatore dove c'era il banco di l'ex banca commerciale, la di lì l'hanno messa il palco quest'anno, non sotto la provincia come facevano prima, c'è la pista di ghiaccio e l'hanno messo giù verso i portici, verso dai portici verso via Roma Alto. Ma tanto si sentiva forte l'amplificazione nei bassi, proprio boom boom. Che compresso c'era via Roma? Come si chiama quelli? Banda Bardo, che non conosco io, e poi un altro gruppo di questi così. Ah, sempre roba di cagattina, la stessa rifanza. A Castelsardo, questi posti qui fanno dei belli spettacoli, con cantanti proprio conosciuti. Allora, un amico mio infatti mi ha chiamato stamattina, lui è andato a Castelsardo, dice una cosa spettacolare, poi hanno trovato una bella giornata, dice non c'era neanche freddo, non ha piovuto una goccia d'acqua, infatti quando gli ho detto di qua, di Sassari, gli ha detto no, non ha piovuto, c'erano le navette, c'erano gli autobus da Lubagno, tu lasciavi la macchina lì e ti portavano direttamente nella piazza, c'era Alessandro Amoroso, dice bellissimo, una bellissima cosa, poi tutto spettacolare, fuochi d'artificio, una cosa bella, poi Castelsardo, di lì ci tengono, sono molto più, quelli del paese sono più attaccati alle loro tradizioni, a farsi vedere bene, ma a Sassari e a Sassarese veniva un po' di nuda, c'era qualche turista così di passaggio, noi Sassarese, Piazza d'Italia, se chiede in giro ben poca gente, ma anche gente che abita lì vicino. Sì, infatti, non fanno mai nulla di importante qua, è difficile, vabbè che poi, vabbè, io dico la cosa, io c'ho un bambino che è piccolo, c'ha 11 anni, vabbè, ma è ancora un bambino, non posso stare a casa al freddo o portarlo lì tutta la notte all'aperto. Nella casa, ragazzi, c'erano anche i vetri appannati da quanto c'era caldo, perché hanno acceso anche il camino e insomma era tutto bello riscaldato. Siccome è una casa di campagna e cose, quando praticamente rimane sempre chiusa, non se non fai feste e cose, come tu accendi il caldo, scendono le gocce addirittura, ma te ne mangi, la condensa si fa. Poi l'umidità tutta accumulata nel tempo, diciamo così. Oh già, io adesso devo interrompere, e domani devo, come si dice, andare a travagliare. Sono da parecchio con il radio, da un paio, più di qualche ora ci sono. Ho sentito più o meno a tutti, da Claudio, Gianni Capridue e tutti gli altri. Ho fatto un po' di computer, però mi sta avendo il fanale, mi si stanno abbassando un pochettino il fanale. Dai, ci sentiamo in altre occasioni, magari domani se coincide. Ciao, ciao, alle prossime. Ciao, ciao, buonanotte, cuore ti da parte mia. Ciao Robe, con quel tipo di procedimento potremmo accoppiare domani. Vi stavo ascoltando con Gianni Dicchi, però stavo facendo altro e quindi non ho entrato per quello. Dai, ho aspettato un po' e poi quando ho aspettato il computer sono entrato. Andare, ci sentiamo.